Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Dimmi Mario, dimmi. Allora ce l'ho con te, Crociani. Sì, parla bene, togli viva voce, l'auricolare, il Bluetooth, i fili del cazzo, quello che ha. Non posso farlo, non posso Ma se farlo, non puoi fare, tu, allora vai a fare in culo e non chiamare, scusa. Ma vai Mario. A fare in culo tu, Ma Piero. Non chiamare, imbecille, se hai il telefono così. Non chiamare, non chiamare, non chiamare, se hai il telefono così, non chiamare, imbecille. Ma perché si litiga sempre sta trasmissione? Ma perché tutto viene trasformato in una rissa? Perché? La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Sentite cos'è? Come funziona questa radio. Senti, ma non so. Che cos'è? Il mio microfono. Cioè, questa, aspetta, questo è come funziona questa radio, ragazzi. No, faccio sentire. No, sono io, mi segnalano da regia che sono io. Adesso funziona. Che è successo? I microfoni! I microfoni della radio del Sole 24 ore! Così funzionano! E poi rompo il cazzo a me perché faccio vedere un culo. Capito? I microfoni in diretta alle 19:50 funzionano così, che a un certo punto fanno. Ma non rispondere così, non si capisce un cazzo. Prendi il microfono allora, fatti dare, dai. Eh sì, ma se lo rompe il microfono... Non l'ho rotto, che c'è il tecnico, signore. Adesso funziona. Chiudo sto cazzo microfono! Comunque, prima di mettere quella cazzo di freccia e cambiare corsia, potete aspettare mezzo secondo, no? Camionisti di merda, non potete guardare un mezzo secondo dietro prima di cambiare corsia, no? Voi dovete mettere la freccia e cambiare corsia. Non ve ne frega un cazzo se c'è qualcuno dietro, qualcuno che sta superando. Teste di cazzo, solo perché siete 10 volte più grossi di una macchina, allora fate quello che cazzo volete, va. Ma no, ma noi siamo educati, ce n'è uno su 10 così. Vabbè, il viaggio da 3 ore è già successo 3 volte. Andate a fanculo, bestie. Siete dei decerebrati di merda. Non tutti, ma alcuni sì. Oh, gente, è il piano. Votata la nuova legge fascista, mascherina anche all'aperto. Parenzo, siamo sicuri che tu non sia fascista? Dire essere razzisti, andate a fare il culo, ma mi denunciano perché c'è il politicamente corretto che tu e tutti pensano che i negri siano dei medici. Io non conosco negri medici, conosco negri che puliscono i treni, che puliscono le stazioni, che puliscono i bagni delle stazioni, ma non conosco negri medici. Dovrebbe mettere un cartello davanti e dietro: primario nonostante sia negro sono un primario. Ma chi è che va all'ASL? Io se ho il mal di pancia ti pare che vado all'ASL? Io vado da un bravo medico, non all'ASL. Ma l'ASL non so neanche dov'è, io a Bergamo o a Milano. Ma che me frega dell'ASL? Il collegamento da Roma, David Parenzo. Buonasera cari amici. Impennata dei contagi, 4.458 nuovi casi. Sei un terrorista. Il livello più alto da aprile. Salgono anche i ricoveri gravi, 22 morti. Questo è l'aggiornamento. Sei un terrorista. E in tutto questo ci sono persone che anche in questa radio, anzi no, in questo spazio radiofonico, non in questa radio, sì, negano la pericolosità del Covid-19. Io mi chiedo, oltre a questo, è compatibile un conduttore radiofonico che nega la pericolosità del Covid-19 con dei manifesti che in tutta Milano, nei grattacieli di Milano, mostrano il suo culo, perché ho qui le prove anche di questo, di mega manifesti con il culo di Cruciani a Milano? È compatibile tutto questo con la Confindustria? Esattamente. sei il solito terrorista, ma in collegamento da Abano Terme dal solito lettone Alberto Gottardo, vai. Per nulla terrorizzato, mollemente mi adagio e mollemente guardo dei dati che sarebbero in una situazione normale degni al massimo di 5 righe in fondo. Beh, adesso non esageriamo, 5 righe, righe. Tutto allora, il mondo no, scusatemi, si interroga no, e lui dice 5 no, righe. Come al solito non capisci un cazzo. Dai i tuoi dati, Gottardo, vai i tuoi dati. Ma come i tuoi dati? Vai con i tuoi dati, Gottardo, vai. E se l'anno scorso non fosse successo il disastro in Lombardia soprattutto. Vabbè, dai, veloce. Noi questi dati qua non li commenteremo nemmeno, basta. Ma cosa dice? È tutto là. 4.400 il livello è già finito, ma questo quelli è sono pazzo. Contagiati, non ha fatto la dieta al cervello, potresti, ma è pazzo. Ma no, potresti averlo anche tu, sì. Covid e non saperlo. Potrebbe stai essere bene? Quello. Sì. Ecco, sì. Stai bene, allora cosa vuol dire? No, ma non sto bene, mai cosa in ospedale. Ma aspetta che mi tocco, ti faccio una profezia, No, non fare profezie. Tu non morirai mai di Covid. Ma vaffanculo. Non morirai mai di Covid, non finirai in ospedale. Faccio le corna, ma vaffanculo. Sgarbi, state zitti. Sgarbi. È retorica, perché i medici veri dicono è assurdo e ridicolo portarla da soli all'aperto, e questo lo dice sia Galli, il prediletto Galli, sia Grisanti. Quindi non ci facciamo illudere dall'aria patetica e tenera. Se la porto io, la porti tu, io non la porto, se non dove è obbligatorio per la situazione reale, non la porto in aperto, all'aperto in un bosco. L'idea generale di questo situazione di pandemia è contrastata dal fatto che il 95% dei positivi sono asintomatici e siamo quindi in una situazione particolarmente favorevole, non certo per il modello italiano, perché in Svezia non è stato adottato e abbiamo meno morti. E com'è possibile che un malato non stia nella vita sociale quando guarisce dopo 10 giorni? Quale misura repressiva, fascista, intollerabile viene adottata da questa gente? A partire dal bravissimo e divertente presidente De Luca a quelli che lo imitano. Ma perché? Perché non c'è in Albania? Perché non c'è in Svezia? Perché non c'è in Francia? Perché non c'è in Germania? Perché c'è solo qua lo stato d'emergenza? Che Europa è la nostra? In nome di chi parliamo? Di quale modello europeo? Non potete parlare dell'Europa. Dovete parlare di un'Italia ristretta, chiusa e fascista, in cui chi è malato deve essere cacciato. E andiamo a cercarli i malati, non loro cercano lo Stato. Non si cercano tutti i malati di epatite C o tutti i malati di altre più gravi malattie. Questa, come prova il sottosegretario viceministro Sileri, è una malattia di cui si guarisce e si è in ottima forma. Non è necessariamente una malattia mortale. Allora ragazzi, sulla questione delle file per i tamponi voglio dire una cosa, è inutile che il sottosegretario Sileri o altri dicano non si possono aspettare 8 ore per i tamponi. Ma scusa, sei il sottosegretario alla salute, viceministro, quello che è, viceministro alla salute, e poi dici non si possono aspettare 8 ore per i tamponi. È vero che la sanità è regionale, quello che ti pare, ma tu sei il viceministro. Tu sei il viceministro, vi siete, cioè, potevate prepararvi per 6 mesi, avete detto ci sarà sicuramente il ritorno del virus in autunno, eccetera, eccetera, e poi uno si stupisce, non si possono aspettare 8 ore per i tamponi. Ma dovevate predisporre un piano pazzesco in cui uno fa un tampone in 5 minuti, ma quello che è anche il ministero, cazzo, non ti puoi stupire, non si possono aspettare 8 ore per i tamponi, dai, su. Mandiamo un signore che si chiama Ciocca, che è un europarlamentare della Lega, Lega. Ex Lega Nord, me l'ha segnalato oggi a Tele Lombardia, il quale dice, signor Ciocca dice, per giustificare diciamo il fatto che l'Italia ha meno, poi in realtà meno non troppo, ma comunque meno contagiati rispetto al resto d'Europa, che il popolo italiano è tra i più puliti. Ma tu ti rendi tra conto? I più puliti, signor Ciocca, e tu lo sto dicendo, ma lo sto dicendo, ma quale votato? Cruciani, tra l'altro bravo. Il popolo italiano è uno dei popoli più puliti. Il popolo, lo dico da deputato europeo. Ma il popolo c'entra? Italiano è uno dei popoli più puliti. noi siamo più attenti, siamo più puliti rispetto ad altri paesi europei. Ma quindi gli altri paesi europei hanno il Covid perché sono sporchi? No, perché hanno delle attenzioni nettamente diverse rispetto ai cittadini italiani. Scusatemi, che sono più sozi o no? Non ho capito. Beh, sicuramente hanno un'attenzione alla pulizia dei locali, della persona, diversa da quella italiana. E quindi c'è più coronavirus. E quindi c'è un comportamento che ovviamente li penalizza sul coronavirus. Questa è la verità. E questo è parlamentare europeo, ragazzi miei. Votato anche una volta anche votato Lega, un'altra volta ho votato Berlusconi, un'altra volta ho votato per il PD, un'altra volta ho votato per i radicali, non più da anni. Volta ho votato per altri partiti. Non ho mai votato comunista e per la destra. Ma quando per le destre? Ma che vuol dire per le destre? Ma che dici? Dici noi abbiamo il bidet. Senti questo, io questa sera lo voglio chiamare questo signore. Noi abbiamo il bidet. Noi abbiamo il bidet, ragazzi, su, dai. Devo dire la verità, non sono, da questo punto di vista, sono l'esempio contrario. Sono l'esempio, esattamente tu, l'esempio, certo, contrario, certo, dai, certo. Su, non mi pulisco il culo. Io mi pulisco il culo pochissime volte. Mamma mia, ma pochissime perché volte. Alla radio devi dire queste pochissime cose? Volte. Ma che schifo è. Perché ogni tanto mi piace sentire quella retina che c'è sotto, quella retina. Ma perché devi dire queste porcherie? Ma perché sei così sporco? Noi abbiamo il bidet, senti. In Italia c'è meno coronavirus perché siamo... Perché il comportamento dei cittadini italiani, dai, è un comportamento più ordinato e più pulito. Francesi, punto. Gli spagnoli sono più sozzi. Eh sì, io non so se siete stati in Francia, se siete stati in Spagna. Se uno entra in un bagno italiano, trova un pezzo in più rispetto a un bagno francese. Ma che c'entra, vecchia storia del bidet? C'è un pezzo in più, c'è un sanitario in più. Il bidet. È un sanitario in più. Quindi i francesi hanno più coronavirus perché non hanno bidet. Hanno una cultura dell'ordine, della pulizia diversa da quella italiana. Ragazzi, to be continued, come si dice, no? Cioè, fra poco continueremo. Ragazzi, una cosa incredibile, incredibile. E lui zitto. Parlamentare europeo della Lega, signor Ciocca. Signor Ciocca sostiene che negli altri paesi il virus è più forte, cosa peraltro tutta da dimostrare. Perché sono più zozzi. Ma perché li proteggi? Abbiamo gli avvocati di a buon diritto. Ma chi di li protegge? Sto mandando in onda. Lo sto mettendo alla berlina, perché? Lo sto ridicolizzando. Perché li proteggi? Ma così? Non proteggo nessuno. Non sono più così potenti come prima. Abbiamo i nostri avvocati. Il Covid non esiste. Is the new Olocausto. Non è mai esistito. Sciopare. Strade in diretta. Una buona serata. A causa di un incidente si segnalano ancora code sull'autostrada del Brennero tra Pegoniaga e Mantova Nord in direzione del confine di Stato, code invece a causa di un incidente ormai risolto tra il Brennero e Vipiteno in direzione Modena. A causa di un altro incidente risolto e di lavori, code sulla 10 Genova Ventimiglia tra Orcofellino e Spotorno in direzione Genova, e per lavori si viaggia lentamente ancora sulla 26 Genova Gravellona Toce tra l'innesto con la 10 Genova Ventimiglia e Masone in ambo i sensi. Code per un incidente sulla 4 Torino Trieste tra Sansino di Livenza e l'innesto con la 28 Portogruaro Conegliano in direzione Trieste, per lavori ancora traffico lento sulla 9 Milano Como tra Chiasso e Como Centro verso Milano e tra Como Centro e Como Montolimpino in direzione del territorio elvetico. Attenzione ad un incidente avvenuto sulla 12 Genova Rosignano all'altezza di Macarese in direzione Civitavecchia. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio. La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800 24 0024 o whatsappate il 393 71 71 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Se il governo, al posto di mettere l'obbligo delle mascherine, che non serve a un cazzo sta roba, dicesse a tutti gli over 65 statevene a casa, non rompete i coglioni, come oggi che sto girando in mezzo ai mercati e vedo solo vecchi di merda come cavallette, statevene a casa, non rompete i coglioni per 3 mesi e vedete che le terapie intensive non si riempiono. Invece no, i vecchi per definizione devono rompere i coglioni e noi dobbiamo fare tutte ste cazzate per 2 vecchi di merda. Mandatevene a fanculo. Comunque secondo me la signora Martani, con tutte le verdure che mangia, tirerà di quelle scoregge mostruose cazzo, altro che forno olandese, qua siamo a livello di forno crematorio. Allora, l'europarlamentare Ciocca, ragazzi, prosegue. Siamo superiori a un tedesco, a un francese, per quello che riguarda ovviamente la pulizia. Ma incredibile. Più pulizia, meno Covid. Questo ci costerà richiami delle ambasciate di Francia, l'ambasciata tedesca. Ma questo è un eurodeputato, ma tutti rendi come. Lo era anche Borghetti, lo era anche Borghetti, sì. Lo era Buonanno. Non è che ma abbiamo mandato degli scienziati ma prima. Ma che c'avete contro Buonanno, che era un genio? Siete pazzi, siete. Ah, un genio, insomma. Di quella cultura dell'ordine e della pulizia ovviamente si ripercuote anche nel comportamento. Quindi, questo è. Italiani più puliti, quindi, meno il Covid. Il merito è dei cittadini francesi, italiani, spagnoli, della cultura italiana. Meno puliti, più Covid. E quando l'italiano pensa di essere dentro all'equazione, perché io mi perdo. Quando l'italiano pensa di essere inferiore a un francese o un tedesco, io mi arrabbio, perché noi non siamo inferiori, siamo superiori a un tedesco o a un francese. I ristoranti francesi meno puliti di quelli italiani in generale, ma ragazzi, ma di stiamo a parlare una cosa dai ristoranti simile? Francesi, perché dai, non glielo su. Dici? Ma io fossi l'ambasciatore, l'ambasciatore italiano, l'ambasciatore francese in Italia, ma a seguito di queste dichiarazioni, ma me ne fotterei, io fossi l'ambasciatore, un eurodeputato della Lega, e non hai mai detto che era della Lega, peraltro. Ma come no, l'ho detto non all'inizio. Non lo hai detto, ma perché lo hai nascosto il dato. Mamma mia. È la realtà. La realtà. Se vai in un ristorante francese, la pulizia è nettamente diversa rispetto al ristorante italiano. Ovviamente questo per una matrice di massima, poi ci sarà il ristorante italiano peggiore di quello francese e via discorrendo. Ma in linea di massima, il comportamento di un italiano, dico l'italiano medio, ha un comportamento più ordinato, più pulito e più prudente. Il francese medio ha un comportamento meno ordinato, meno pulito e meno disciplinato rispetto a quello italiano. Punto, questa è la realtà. Io non metto becco, aggiungo solo che non si offenda nessun francese, nessun spagnolo. Se lo dici tu, è così. No, se lo dico io così un cazzo. Scusa, ragazzi, se lo dice l'ottimo Oliva. Lui ha detto, come dire, se lo dice lei si vede le responsabilità. Sì, per il culo, sì, il buon Oliva. Sai qual è il dramma? Sai qual è il dramma? Che questo nei ristoranti francesi, sei mesi all'anno, quando è a Strasburgo, si va a mangiare con i soldi degli italiani. È quello il problema drammatico. E non gli farà schifo andare a mangiare nei ristoranti di Strasburgo con i soldi dello stipendio anche da noi siamo andati, anche noi siamo anche andati noi, certo, a spese come no. A spese anche degli italiani. Fermi tutti, Esther da Milano, Esther da Milano, fermi, Esther da Milano. Buonasera. Dimmi, Esther, dimmi. Poche parole. Sì. Grazie, tanto Esther, che per dite chiamato. Che questo è un stato fascista, specialmente il cervellone che ho parlato prima, no? Sì. Uno Sgarbi, è ecco il cervellone che sputa M, compreso lei, dalla mattina alla sera. Vecchia, perché questo è stato fascista e sputate tutto quello che volete e non vi dice niente nessuno. Bisognerebbe che qualcuno vi denuncia se da un lanciafatti alla faccia di questa radio, alla faccia di questa radio, del decoro che voi ne fate questa radio. È stato fascista, ma avevano già strappato la lingua. Buonasera. Ma che dici, vecchia rincoglionita? Richiamatemi, Esther, ma questa poverina è una vecchia rincoglionita totalmente. Richiamatemela. Incredibile, guarda, incredibile. Però bisognerebbe fare un confronto Esther Sgarbi, sarebbe meraviglioso. Esther contro Sgarbi. Richiamatemi la vecchia intanto. Joseph da Bari, anzi Luciano da Palermo, vai. Luciano, dimmi. Sì, pronto, buonasera a tutti. Dimmi. Sono un negazionista, però penso che messaggio che mi arriva da un altro leghista: Ciocca mangia a Strasburgo con i soldi della UE, non con i soldi degli italiani. Beh, insomma, contribuiamo anche noi. Quei soldi, aspetta, dai. Fammi sentire Esther. Esther? Sì. Oh, ancora con sta vecchia rincoglionita. Allora, vecchia rincoglionita lei, vecchio è lei, perché io sono più moderna di lei. Bravissima. E tanto per dirle vado ancora anche a ballare. Ma quale ballare? Ecco, ma quale ballare? Che lei non rispetto. Vede, non vede un maschio da 20 anni. Che ha una figlia che si vergognerà a sentire quello che dice per radio. Ma io non ho detto nulla, ma che cosa ho detto? Buonasera. Ma senta, ma non faccia la rincogliolina, richiamami ancora poi, Esther. Poi richiamatemi vedi come ti accanna subito. Buonasera, subito, bravissima. La tecnica di Esther, spara la cosa e poi chiude, no? Vai con Esther, intanto. Ma non chiamarla la vecchia, è una signora che mi ha grande rispetto. È una vecchia rincoglionita. Perché c'è delle cose. È una vecchia rincoglionita che va a ballare a Milano, ma da stessa a casa, non pensi ancora con ste balle. Grazie Esther. Guarda, mi lasci giù perché perché sennò mio marito mi ammazza. Chi è? Chi è? Tu, ma, hai pure un marito tu? Hai pure un marito? Un bello! Ma Milano, quale bello? Ma... fine! Io sono piccolo, alto, un bel uomo che mi vuole bene, ma... e che non parla di M dalla mattina alla sera, ma... e che lavora, uno sgobbone, e che rispetta, che lavora, tutti, che e che rispetta tutti. Ma rispetta buona tutti i gol. Ma che non ti tocca. Non ti tocca da 10 anni, non ti toccherà da 10 anni, non ti mette le mani addosso da 10 anni, dai, su, smettila, Esther. Ma vai a cagare, va, vecchia rincoglionita, ciao. Ma ciao, perché? Ciao. Con chi eravamo? Luciano dalla Palermo, sì, Luciano, dimmi. Ok, buonasera. Allora, dimmi. Io non sono un negazionista, in famiglia abbiamo sempre parlato da febbraio che questa influenza non è come la lebbra o come l'AIDS. Oggi mia figlia di 11 anni è ritornata da scuola con un compito da fare che per un mese, ogni giorno, deve scrivere i casi di Covid a Palermo, in Sicilia e in Italia. Io mi sono trovato con le spalle al muro, dove l'istruzione, secondo il mio punto di vista, cioè alimenta quanta fobia sta bambina di 11 anni che io cerco di non fare vedere i telegiornali con tutta questa paura, bravo, che bravo. Fanno vedere. Mi hanno fatto fare 2 mesi di cassa integrazione, inutilmente hanno bloccato una delle più grandi industrie italiane a rischio di commesse, per niente. Dove pure col fattore mascherina io sono un saldatore specializzato che sto. Vabbè, non ho capito qual è il problema. Non ho capito. Il problema è che stanno per te c'è un'informazione terroristica ogni giorno, questo bollettino. Assolutamente. Ora una bambina di 11 anni che si deve mettere lì a scrivere ogni giorno per un mese quanti casi di Covid ci sono a Palermo, in Sicilia e in Italia. Io ora devo lottare, devo far capire a questa bambina che i numeri no, ma soprattutto passati. Che i casi di Covid non sono malati. Ma cosa non dire? Sono no, malati, no, sì, certo, non sono malati, spiegare. Non ci sono malati. Dovuto... avete messo il marchio, tu e i tuoi amici, Parenzo, state come mettendo il marchio di malati alle persone ma che hanno il virus. Ma certo, così. Sono persone che infettano. Ma che infettano? Quello lo vai a vedere spiegare. Nei film degli zombie. Il infettano che cosa? Asintomatico è il più pericoloso. Ma perché chi non te l'ha sai detto? Dove si nasconde. Ma che cazzo dici? Ci sono mille cose che dicono al contrario, ancora non è sicuro niente, nessuno sa niente di niente. Paolo da Firenze, fammi sentire Paolo da Firenze, dimmi. Allora, siamo dimmi. In tema. Dimmi. Allora, signor Cruciani, buonasera a tutti. Sì, veloce però, allora, veloce, dimmi. Io no, non posso essere veloce. E allora ti rimando dopo, fermo là, fermo. La Zanzara. Vai tu, se mi parla al telefono che la Zanzara da fa l'800240024. Oppure se lui ti mandano ci faccio i miei messaggi. Coppa WhatsApp 393-71-71-701. Ma scusate, oggi stavo facendo una riflessione. Cruciani si fa pisciare addosso, si fa sputare in bocca, gli piacciono i piedi. E quest'uomo non se lo fa mettere in culo? A me sembra molto molto strano. Ma vaffanculo, Cruciani. Voi mi state seriamente facendo male, sto pensando di denunciarvi. Questa notte ho sognato che avevo un rapporto sessuale con un uomo riconducibile al brasiliano e come se questo non bastasse, questo uomo aveva anche il Covid. Lucia, 20 euro per vedere un culo a te. La Nerchi ci deve mettere, allora sì che le spendevi 20 euro. Qualcuno vi denuncia se da un lanciafatti alla faccia di questa radio, alla faccia di questa radio, del decoro che voi che fate questa radio. Buonasera. Sto leggendo, cari amici miei, un'intervista su un settimanale che si chiama Novella 2000, a un personaggio che fa il conduttore radiofonico. Questo ottimo, personaggio ottimo. Si chiama, credo, Giuseppe Cruciani e conduce una trasmissione che si chiama La Zanzara, così leggo da qualche parte. Sono pubblicate un paio di foto mie con la copertina di un libro appena uscito, non so quale sia il titolo, credo mamma Nudi, mia. Credo mamma Nudi. Mia, che in una parte, di questa intervista si recita, ho scoperto che le coppie che restano più unite sono quelle che riescono a superare la gelosia. Il possesso esclusivo dei corpi. La coppia può sopravvivere tradendosi. In questa esplorazione che ho fatto del sesso, ho visto che sempre più persone ritengono che sia più consono alla natura umana avere rapporti poligami. Non è un'idea nuova separare l'affetto dal sesso, ma prima era tenuto nascosto e si accettava che fosse soprattutto un istinto maschile. Ora invece sono sempre più le donne che cercano una sessualità aperta. Sono perfettamente d'accordo. Dai, sono perfettamente abbiamo avuto esempi, esempi ormai praticamente di, no, pluriennali qui alla Zanzara, di donne che cercano loro una sessualità aperta, che sono loro a spingere l'uomo a una sessualità fortuna, più libera. Aggiungerei per fortuna. Certo, per fortuna, no, donne che vogliono farsi trombare pur essendo sposate, fidanzate da altri, davanti ai loro fidanzati barra mariti, senza problemi, no, no, senza fermo, infingimenti, no, no, fermo, fermo. Con la partecipazione del marito, loro, certo, no, con la partecipazione del marito, con altri, ma ragazzi, sono degli assembramenti, ma poi è la normalità, è la normalità, non so la se normalità. Si possa, no, no, no, non è la normalità. Allora io rifiuto questa idea che sia la normalità di essere. Non è una partita di tennis per cui c'è il pubblico, cioè trombare si tromba in due, no? Di ma solito. Chi l'ha detto? Ma il quando resto, mai? Adesso sei contro le orge, tu sei contro le tennis. Orge. Ma sono complicate le orge da organizzare, da fare. Non c'è dubbio, casino, ma non c'è dubbio. C'è sempre quello che arriva in ritardo, c'è sempre quello che non vuole usare il preservativo, c'è sempre quello che poi è geloso. Cioè l'orgia è una complicazione. A me basta un rapporto uno a uno a tribuna chiusa. Cioè, mamma mio, mia, come siete, come siete retro, come siete retro. Daniele da Firenze, vai. Daniele da Firenze, vai. Daniele da Firenze. Ma dove siamo finiti? Daniele da Firenze, vai. Dimmi, dimmi Daniele, dimmi. Buonasera. Dimmi, dimmi. Senta, nella mia esperienza dall'88 che vado in Europa, e di più Francia, Spagna e Inghilterra, sì, e poi avendo anche esperienza nel settore dell'alimentazione, alimentari e barre, sì, ti posso garantire che quello che ha detto l'eurodeputato è, sì, tutta verità, è a mille per mille. Ma non diciamo cazzate, dai, ma su, sì, sono delle puttanate inaudite. No, inaudite, ma dai, non so di quanto incide sul Covid, questo non, ma non voglio ma dire. Il problema è quello, il resto sono tu luoghi comuni. Nella media, quando ero ragazzino, i francesi o più zozzi. Nella media, i locali italiani con i locali francesi, ma è una puttana, Daniele, non facciamo vai questa Francia, difesa ridicola, dai. Vai in Francia, non c'è bisogno che tu domandi dove è il bagno, perché vai a naso. Ma non dire che ma che scemo, ma che luoghi frequenta, ma che puttanata è questa qua? Io conosco un sacco di posti, no, in Italia dove si sentono media, puzza di merda nei corridoi e nelle sale. Ma non sei andato mai in Francia e Spagna? Allora, ma io come posso ho dire vissuto che in Francia tanti anni, ma non dire cazzate. I primi anni che si andava in Spagna, questo te lo possono confermare tutti i trasportatori che stanno sentendo adesso, sì, noi ci portavamo dalle due, sì, alle tre taniche di acqua in più, perché non era impossibile lavarti. Vabbè, Daniele, io adesso non so l'esperienza, l'esperienza dei camionisti, io non la so qual è. Tra l'altro faccio un che piccolo scemenza, inciso, ogni volta che mi imbatti in un camionista continuo a chiedere ancora una volta eccetera eccetera. Caro Daniele, voglio capire la situazione delle piazzole, sono ancora come dite voi infestate da omosessuali che rompono i coglioni oppure no? Vecchio servizio delle Iene, quello sì, soprattutto la zona di Milano, Roma, il raccordo, spiegami bene, spiegami bene, che succede? Vai là, ti fermi? E ti vengono a rompere i coglioni, abbussano sui piedi a tutte e tu, l'ora, e tu, fanno e tu come, reagisci? Io sono indifferente, non nessuna reazione. Nessuna reazione, ti stanno anche però, un po' sui coglioni, ti stanno anche un po' sui coglioni, aspetta. Ti dico tanto che non mi interessa, punto e basta. Che schifo, però, che zozzoni, se no, succede, se succede questa cosa, Daniele, vuol dire che c'è una parte della sua categoria. Esatto, sì, che, sì, che sì, ama è vero, farsi li, fare li, vedo anch'io, da... li vedo anch'io che saltano sulle cabine, sulle cose, come no? Quanti saltano sulle cabine che sono attivi o passivi? Anche nella zona di Milano, la zona delle Lancezzali, ma di Milano ma è molto. Pensate. Ma che vabbè, fanno sti sono camionisti gay o sono camionisti che semplicemente fanno una marchetta? Questo non lo so, non ho proprio questo. Ci sarebbe tipo da esplorare, no, il mondo del dei camionisti gay in realtà, no? Perché ci di deve essere qualche sono movimento. Molto macisti. Di sì, solito fanno me, i duri, no? E a poi me interessava scopri che più che altro puntualizzare quella cosa che ha detto l'euro. Sì, ma quello l'ho capito, ma mangiare, posso dirti, perché nonostante le tue esperienze, penso che sia una grande puttanata. Ciao Daniele, ciao. Ciao, no, no, ciao, no, non è una grande puttanata. Ciao, ciao, ciao. Salvatore da Catania, eccoci qui, dai Salvatore, dimmi. Salvatore. Sì, buonasera a tutti. Dimmi, dimmi. Buonasera, Gianni, buonasera. Volevo un po' elevare il livello della discussione. Su che cosa? Qui è sempre elevato il livello, perché quando si parla di queste cose vere, vive, anche se di vita quotidiana, eccetera. La realtà, non, la realtà è la realtà. La realtà. Allora, dai, diciamolo subito, che la Pellazio con deglutizione. Io immagino, aspetta, vado subito sulla Pellazio. Immagino che in questi minuti, in queste giornate, Carlo Freccero sia molto attento alla questione del virus che esplode, no? Di questi contagi continui, no? Immagino, credo, è un po' di tempo che non lo sentiamo, eccolo qua. Sì, sì. Mi inserisco naturalmente per qualche secondo, perché è una notizia straordinaria. Ma i 4.458 nuovi casi, naturalmente. Come straordinaria. Salgono anche i ricoveri, 22 morti, naturalmente è la vita. E tutto questo la RAI cosa fa? Manda il comitato tecnico scientifico a dire mettete la mascherina, dai! Che deve fare? E mostrano quei grafici sì, con i numeri. Più 4.000 televisione morta col grafico. E cosa bisogna fare? Cosa ti ha entusiasmato? Mostrare il dolore, naturalmente. Sì, allora dunque... Il dolore, la paura, la paura. E perché? Di quando uno viene contagiato, naturalmente la paura, quei secondi, quei minuti che separano dal tampone, naturalmente. La cosa da fare sarebbe quella, ovviamente, che qualora venisse fuori un tampone negativo, dire alla persona che invece è positivo, naturalmente. Ma dai! Si creerebbe un cortocircuito delle visivo, naturalmente, e allora si comincerebbe a seguire la sua pressione, lui che torna a casa e tutto il format continua, lo dice alla moglie: amore, sono risultato positivo, invece in realtà è negativo, ma si scoprirà nella terza puntata, naturalmente. C'è un grande format di racconto, naturalmente. Dai, va usata questa pandemia. E se quello poi ti denuncia, non ho capito, che gli hai messo le telecamere. È una possibilità, naturalmente, anche questa, ma io credo che la televisione è morta se non parla di realtà. Ho capito. Tutti che parlo, in talk show, dibattiti. Ma inseguire i nuovi contagiati, nessuno li ha visti ancora questi nuovi contagiati, no? Questi nuovi di questa seconda ondata. Naturalmente vanno seguiti, monitorati secondo dopo secondo, ma soprattutto qualora non dovesse salire ulteriormente il livello dei contagi, vanno dati dati falsi, ovviamente. Gettare il panico tra la popolazione. In Campania in particolare, uno dice: ma meno male che naturalmente ci sono queste situazioni limiti. Il racconto riprendere questo estate, io ho visto la televisione, Telese, dai, c'era sempre Telese, ma morta. come si fa, dai, grazie. Allora Salvatore, stavi dicendo sull'ingoio, non ho capito? Sì, eccomi, sì, diciamo che la Fellazio con deglutizione, detto anche pompio con ingoio, riduce... No, fermo, cosa cazzo stai dicendo? Ecco il professore. Un conto è la deglutizione, un conto è l'ingoio, sono due cose completamente diverse. Non volevo essere troppo... Scusi, lei che cosa fa di mestiere, Salvatore? Sì, sono ginecologo, ginecologo. L'ho chiamato anche 5 anni fa. Bene, ginecologo. Continua a chiamare. Dunque, noi abbiamo... stavi dicendo... Marisoni, è inutile che lo chiamo voi, no? Beh, ma che cazzo chiama? Non ci sono le telefonate, per cui è difficile chiamare. Poi è difficile parlare di pompini con l'ingoio, devo dire la verità. Si parla di altri pompini, quelli diciamo nella politica, eccetera, nell'economia, però sono altre cose, una metafora. Adesso lo si può. Dimmi, Salvatore, dimmi. Sentivo dire l'altra volta in una puntata del podcast di una proteina, la spermina, che migliora le... La spermidina, esatto. È noto, almeno nell'ambiente ginecologico, soprattutto di chi si occupa di procreazione medicalmente assistita, che i pompini con ingoio, fatti ripetutamente prima della gravidanza, riducono il rischio per le donne che lo praticano di avere problemi di pressione alta in gravidanza. Attenzione. Fermi tutti. Qui c'è un medico, un ginecologo, Salvatore, me lo ricordo benissimo adesso che ci penso, un ginecologo che parlò di vaginismo, il quale ci dice, dunque con la sua esperienza da ginecologo, che durante dati alla mano fino a prova contraria, come direbbe il titolo di un'associazione, tra l'altro, molto bene. Allora molto Salvatore bene. Ci altra dice che ingoiare durante la gravidanza, prima di rimanere incinta, che cosa fa, che succede? Allora, praticamente il liquido seminale stimola il sistema immunitario della donna a essere, tra virgolette, riconosciuto. Siccome la gravidanza, quindi l'unità feto-placentare, è una sorta di trapianto semi-allogenico, perché metà degli antigeni sono del padre, allora? Talvolta il sistema immunitario della madre può attaccare attaccare la placenta, il feto, e causare problemi di pressione alta, danni al fegato, gestosi, no? Cioè, bravi, tu stai dicendo che aiuta la fase della gravidanza. Ci fu uno studio luminare del 2000. Dunque, le donne che stanno facendo un figlio, diciamo, che vogliono avere un figlio, stanno provando ad avere un figlio, tu consigli di ingoiare. Però dello stesso partner. Vabbè, grazie a cazzo, sì, quello. Ci sono studi che dimostrano che anche donne, questo prevede la gestosi, colpisce soprattutto alla prima gravidanza. Però donne che sono alla terza, alla quarta gravidanza. Evita dei problemi. Fermala che torno da te, che è interessantissima questa cosa, caro Parenzo, soprattutto per te è interessantissima, posso dirti la verità. Lo avessi saputo prima, ti saresti regolato in modo diverso. Ne hai fatti quattro, cazzo, fermala. Mamma mia. Borse in diretta. La positiva Wall Street con Dow Jones più 0,30%, l'S&P 500 più 0,61%. Positiva anche le borse europee, che oggi hanno scommesso sul piano di aiuti mirati oltreoceano negli Stati Uniti ai settori più colpiti dal Covid-19. Su questa speranza hanno chiuso in con segno più sia Francoforte, DAX Pricing più 0,88%, sia Parigi più 0,61%, sia Londra più 0,53%, bene anche Milano con il FTSE Share più 0,7%, il FTSE MIB più 0,76%. Sul FTSE MIB primeggiano Pirelli più 4,29%, Mediobanca più 3,93%, Saipem più 3,25%, bene anche Tenaris, Fineco Banca e Buzzi Unicem, giù invece di Asoin meno 2,35%, Moncler meno 1,85%, Ferrari meno 1,4%, ma anche Inuit, Atlantia ed Enel. Spread BTP Bund decennale a 127,6, quindi sempre basso, e cambi euro a 1,1754 sul dollaro. È tutto. La Zanzara. Ma Crucio, ti rendi conto che mia nonna ha quasi 100 anni e ha una mente lucidissima, ha una memoria di ferro? E ti rendi conto che è da ieri che sto pensando, ma magari è così perché li faceva con l'ingoio? Secondo i consigli della nostra diet coach, vuol dire che se uno ingoia non gli viene l'Alzheimer? Fatemi sapere. Senta, ricognolito lei. Ancora questa vecchia Esther. Cioè, ha pure un marito questa Esther, capito? Ma certo, cioè, anche una persona molto per bene. Una persona per bene. Cioè, tu basta che mi attaccano una persona per bene. Certo, mi attacchino una persona per bene. Ma in quale paese un conduttore radiofonico che scrive un libro tappezza la propria città di manifesti con il proprio sedere? Sono 4-5 manifesti, ma io dico, dai, ma che 4, figura 5... è? Ma è compatibile tutto questo? Sono anche 10 metri per 8 però, appunto, Giuseppe. Effettivamente sono grandi. In questo momento hai il culo più grande di King Kong. Cioè, su via Leon Cavallo, su via Leon Cavallo a Milano, metri. Che non è ovviamente nota in tutta Italia, ma Leon Cavallo sì, è noto in tutta Italia. Ci sono dei grandi pannò, come si dice, ancora questo buonasera, porca puttana. Ma chi è sta Esther? Perché me la mandate in onda? Perché è gentile, educata. Ma che educata? Anche a Porta Romana. Roba da pazzi. Però allora, non lo mandi in onda il tuo amico Feltri, che ieri ha detto mettete la mascherina. Te lo stavo mandando in onda. Devi adesso omaggiare il direttore Feltri. Ma sai, un orologio rotto due volte al giorno, segna l'ora esatta, come dico più volte. Senti. E il governo fa benissimo anche a imporre delle regole rigide, perché... perché anche questa storia delle mascherine, che mi ha proprio rotto le scatole. Mettete queste benedette mascherine, non rompeteci più le scatole, mettetele perché servono. No, io non sono così stupido da fare il vaccino in ottobre, aspetto novembre, perché così avrò la copertura fino a oltre gennaio, altrimenti non ce l'avrei più, perché dura 3 mesi l'effetto del vaccino. Per il momento ho fatto il vaccino cosiddetto antipneumococcico, non so come si chiama. Quello lì è importantissimo, perché ti salva i polmoni, dopodiché se vai sotto una macchina muori lo stesso. Comunque, tra l'altro, Feltri è la persona, non è ipocondriaco, ma è uno dei più grandi consumatori di chimica, di farmaci che io conosca. Certo. No, ma assolutamente, aspetta ancora. e poi metterla all'aperto, al chiuso, in famiglia. Ha anche ragione Conte quando dice anche in famiglia bisogna stare attenti. Sappiamo tutti che la fonte di guai maggiori è proprio la famiglia, quindi anche lì bisogna stare attenti, che caspita, allora, lo sappiamo tutti e poi neghiamo l'evidenza. Sì, però posso dirti questa la cosa famiglia, qua. Sì, la famiglia, se ceni con i gatti sul tavolo, come certo, fa lui, probabilmente esatto, te prendi qualcosa. Ma che c'entra, non è la famiglia, dai, è cenare tutti con i gatti dei, sul tavolo. Certo, i peli dei gatti dappertutto. Fatelo, il tampone costa come due pizze, a parte che è complicato farlo il tampone in alcuni posti, non da tutte le parti. Beh, lui ma mica alcuni farà la fila al drive-in, lui, adesso glielo vorrei chiedere. Via. Quello chiama e gli fanno il tampone dopo due minuti, che vuol dire? E come chiama? Chi chiama? Ma perché è così? Cos'è? Perché la, perché la vita è così, ci sono quelli che chiamano e si fanno il tampone e quelli che fanno le file di 8 ore, non è che sono solo i poveracci, anche dei giornalisti ho letto da qualche parte hanno fatto la fila, altri chiamano e fanno il tampone, che cazzo vuoi? Tu guadagni centinaia di migliaia di euro al mese, all'anno, e altre persone guadagnano di meno, che cazzo è? Ma questo non vuol dire niente però, ma lui che lo dice così in modo sfrontato, proprio sfrontato. Per quanto riguarda i privati, usiamoli i privati, perché per 50 euro costa fare un tampone, no, credo 100, che non sia necessario essere 100 ricchi per spendere 50 euro, è il prezzo di due pizze, poi andiamo allo stadio, spendiamo 150 euro per vedere una partita di calcio e poi ci mancano 50 euro per fare il tampone. Allora, scusate, cerchiamo di essere seri. Allora, eravamo però con Salvatore da Catania sulla questione della spermidina, cioè dire sulla questione non della spermidina, in realtà di un'altra cosa. Lui sostiene, da ginecologo, che l'ingoio dello sperma, l'ingoio, attenzione a questa cosa, l'ingoio dello sperma favorisce il parto, cioè favorisce la situazione post parto. Spiegamela bene sta cosa, Salvatore, che non l'ho capita benissimo. No, non hai capito un cazzo. Probabile, non sono un esperto come te. Dai, forza. L'esposizione prolungata prima della gravidanza allo sperma previene la gestosi, principalmente per via orale, anche se poi successivamente prima vaginale, riduce il rischio di gestosi, come giustamente Gottardo la chiama. Riduce il rischio di gestosi. Dunque, però tu inviti. Però questo non avviene sempre. Aspetta, mia moglie non mi ha mai fatto un pompino con l'ingoio, eppure non ha avuto la gestosi. Mamma mia. Ti avverto che sei in una fase delicata, caro Gottardo, non ti esporre su questo fronte. Però scusami, sto dicendo, deve venire in tribunale a spiegare che è il contrario. No, sto dicendo a Salvatore una cosa. Sto dicendo a Salvatore che faccio l'incidente probatorio con mia moglie, viene in tribunale a spiegarmi che invece lei mamma lo fa con il buio a sto punto. Salvatore, però per non si può dire la verità. Però Salvatore, per riassumere la questione adesso, senza confondere le idee alle persone, tu stai dicendo che le donne che ingoiano prima della gravidanza possono avere un vantaggio durante la gravidanza e dopo, giusto? Ci sono studi scientifici pubblicati che dimostrano questo. Va bene, d'accordo. Ciao, amico mio. Ciao. Allora, Paolo da Firenze. Dimmi. Buonasera. Dimmi. Luciani, torniamo ai dati un attimino. Torniamo ai dati. 4.458. Ho sentito, signor Parente. Sì, questo è il dato terroristico bene, di oggi. È questo. Bene, mentre bene, si sa Repubblica, che sono milioni. La Repubblica milioni di oggi dice nuovi contagi 4.458. Benissimo. Boom di contagi, io vado sul sito di Protezione Civile, vado a vedere Berlino che torna il coprifuoco dopo 70 anni, locali chiusi dalle 23 a Berlino, Francia, 18.000 casi al giorno, negli ospedali tornano i reparti Covid. Vado avanti, Berlino torna in lockdown, hai azioni delle aziende farmaceutiche che godi così tanto. Vado avanti a raccontarvi. Hai fatto investimenti oculari. Allora non ho capito, Paolo, dimmi. Vado avanti. Allora, siamo a 4.458, giusto? Lei, signor Cruciani, ce l'ha una penna e un pezzo di carta? Sì, ce l'ho. Allora, prenda nota. 3.376. Sì. 3.376 sono gli attuali positivi. Poi scriva, 1.060 sono i dimessi e guariti. Sì. Dimessi o guariti. Sì. Poi 22 sono purtroppo i deceduti di oggi. Sì. E arriva, se fa questa somma, ottiene 4.458. Qualcuno mi dovrebbe spiegare. Cioè, non è cambiato un cazzo, perché bisogna considerare quelli guariti, dici tu. No, né in questi 4.458 spacciati per nuovi contagiati ci sono i dimessi e guariti di oggi che sono 1.060, sì, poi ci sono i 3.376 che sono positivi e ci mettono anche i 22 decessi. Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Dimmi perché? Perché? Dimmelo tu, perché? Perché stanno facendo terrorismo? A me lo dici che stanno facendo terrorismo, è una vita che lo dico, cioè, ciao, non capisco ciao. Perché ciao, dire terrorismo. Ciao, ciao. Claudio da Torino, avanti tutta, Claudio da Torino, dimmi. Ma tu tra un libro, un pompino con ingoio, ti ricordi ogni tanto di fare il giornalista? Sì, dimmi, dimmi Claudio, dimmi. Sì, dimmi. Te lo ricordo, perché sì, a sì, me Claudio. Pare che, come ha dimostrato il tizio di poco fa, tu fai parlare a ogni quisque del popolo, sì. Ti fai parlare di scienza, di virologia. Io faccio parlare tutti, anche mostri. Un coglione come te. E io sarò pure un coglione, ma un coglione che non parla di virus, perché e non parlare, non chi se ne frega, chi se ne frega, non parlare. Me ne frego io, perché poi ma se i virologi lottano tra di loro e litigano tra di loro, possono litigare anche gli ascoltatori o no? Il grillino palermitano che vomitano le stesse cazzate che dice Meluzzi, ed è esatto. Grave, gioia mia, perché fin esatto. Tanto che arriviamo e scherziamo tra di noi, bravissimo, è grave, perché fin tanto che noi ridiamo, e non te picchi pu culo, cuci, perché tanto... la figura la fai tu, perché non ti rendi conto e stai diventando tutto quello che hai sempre preso per il culo. Cioè, chi sarebbe? Non ho capito. Che sarebbe un fenomeno da baraccone. Sì, perché sì, se tu avalli sì, le teorie sì, dei Meluzzi, sì, i grillini palermitani. Io non sto avallando niente. Io non ma sto sì, avallando avalli, nulla. Avalli, non avalli, sono, avalli, però, non faccio parte. In diretta tutti no, i giorni. No, in diretta parli tutti di i giorni. Terrorismo. Certo, parli io di parlo fregature. Di terrorismo mediatico, non c'è fai dubbio. Esiste. Meluzzi che parla di microchip sotto la pelle. Hai presente i suoi e certo, e allora uno non ci può credere. E allora. Allora io lo lascio Facebook. Dire e lo contesto, perché secondo me non c'è nessuno che ci vuole mettere i microchip sotto pelle. Non contesti niente, perché lo mandi Parenzo, a catena, e allora, a catena, e allora, tutti e allora, giorni. E allora, e allora. Fai disinformazione. Ah, è così, è proprio così. Che a te non te così. Ne fosse un cazzo, ma ti ricordo che comunque punti come giornalista. Sì. Non so se te lo ricordi. Sì, sì, secondo sì, me no, bello, ormai parli solo di bello, pompini. Che bello, Claudio, che bello, sei bello. Straordinario. Qualcuno mi doveva ricordare, era tempo che qualcuno non mi ricordava. Coglione la fai certo, tu, non c'è dico, dubbio. Era, dire solo era tempo che qualcuno non mi ricordava, ma fai il giornalista, non parlare sempre di culi, non parlare sempre di no, coppie, di non parlare sempre di troie, parlare non di parlare sempre di sai. Puttane. Per me puoi parlare tutte le puntate le di troie, non è che sai, mi impressioni. Senti, le cose che sai, racconti, questa frase agghiaccia, le cose che sai. Come il cucco di gente ciao, che va a trovare parcheggi. Ciao, ciao Claudio, sì, ciao, bravissimo, bravissimo. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità. La Zanzara. Buonasera. Massimo da Ferrara, Massimo, Massimo, dimmi. Massimo, dimmi. Ciao, buonasera a tutti. Dimmi, dimmi. Volevo portarti la mia esperienza, mia e della mia signora, in tema di cambio di coppia e di liberazione sessuale della donna. Ho sentito poco fa l'intervento che hai fatto. Sì. E volevo dirti che la nostra esperienza, che si estende su 25 anni, è una cosa un po' particolare. Cioè, voi siete una coppia scambista? Siamo una coppia scambista. Sì, noi però passiamo... io come faccio a credere al fatto scherzando? Che tu sei una coppia scambista che tranquillamente chiama al telefono e dirà e racconta la sua esperienza? Dai, su, è abbastanza strano. Cioè, non è. Ti potrebbero riconoscere tutti e ovviamente la prima cosa che penso è che non è vero. Certamente, ma io non ho problemi nel confermare le mie esperienze e non mi nascondo ai colleghi, non ne faccio un mistero, perché io come uomo penso che questa sia la mia liberazione, essere veramente ciò che sono, e anche la mia signora pensa questo. Ma quello che volevamo dirti, oltre alla nostra esperienza che hanno tante coppie, e che quello che noi abbiamo visto in 25 anni, diciamo, di giochi, dove abbiamo iniziato prima da soli e poi dopo giochi. prima in coppia e poi da soli, è che l'età nella quale le donne singolarmente si approcciano a questo tema si è innalzata. Prima erano soltanto le coppie. Aspetta molto... un attimo, aspetta un attimo, aspetta un attimo, Massimo, aspetta. E dai. Ma chi stai chiamando? Chi sto chiamando? Dai. Oh, Ciocca! Buonasera. Siamo qui, Cruciani. Comandiamo, siamo qui. Ciocca. Comandiamo. Combattiamo. Comandiamo amico col bidet, allora io dico, come fai a dire una cosa del genere? Dai, cioè, ho mandato in onda le cose che hai detto, credo, a Tele Lombardia l'altra sera, cioè ieri sera. No, stamattina. Oggi a mezzogiorno. Allora, il popolo italiano è tra i più puliti in Europa e per questo ha meno contagi. Cioè, hai collegato il virus col fatto che noi siamo più puliti rispetto ai francesi? No, il comportamento puoi chiedere che scusa hanno adesso. I cittadini italiani, il comportamento puoi chiedere scusa che hanno se i cittadini adesso, italiani nel comportarsi in tutti i sensi. Nel modo di fare, nel modo. Ma cosa vuol dire? No, tu hai detto una cosa chiara. Hai detto che, no, tu hai detto che sono più puliti. Tu hai detto che sono più puliti. Ma non è vero che siamo più puliti. Ma parlate con chiunque, andate di fatto. Scusate, non c'entra niente, Ciocca. Cioè, tu stai tra Bruxelles. Scusa, ma tu sei. Aspetta, Ciocca, tu sei. Dico una cosa così ovvia. Dimmi, qual è la cosa? Prendiamo il cittadino medio. Italiano e il cittadino medio di altri paesi tipo? Cosa vuol dire? Ma i francesi allora? Non è i belgi dove stai? È a Bruxelles, il fatto che per cultura e per realtà, sono più zozzi no, l'italiano ha un'attenzione alla propria pulizia del corpo mamma maggiore mia. Rispetto ma ad altri. È una stronzata, ma è una stronzata, gli italiani anche in questo sono primi, ma non è vero, anche in questo sono primi ma non è vero, anche i napoletani perché il tedesco fa il tedesco il francese fa il francese e io non riesco a trovare nella vostra categoria un italiano che faccia l'italiano. Ma è così difficile. Ma scusa, perché il tedesco dovrebbe essere più? Siamo primi anche su questa cosa. Ma non è vero! Ma non è vero che i tedeschi sono più o meno puliti di noi! Non è vero! Ma chi te l'ha detto? Se dovessimo fare mente locale e dovessimo entrare, non dico nella cosa più evidente, in un bagno francese o in un bagno italiano, ci accorgeremmo che manca un pezzo di sistema. Ma ancora questa storia. Se dovessimo entrare in qualsiasi attività alimentare, di produzione alimentare, in Italia o in altre parti del mondo, ci accorgeremmo che l'attenzione all'igiene, alla pulizia, ma non è vero. anche le nostre regole. E la nostra cultura è nettamente superiore rispetto ma a quella. Ma è una stronzata, ma non stai, vero, ma stai dicendo, no, scusa un attimo, stai dicendo, scusami se ti interrompo, stai dicendo tu che sei parlamentare europeo e vivi in Belgio, in parte in Italia, in parte in Belgio, in parte in Francia, quando vai a Strasburgo, stai dicendo che francesi, belgi, anche tedeschi si lavano meno di noi, sono meno attenti alla pulizia e noi per questo abbiamo dei vantaggi sul coronavirus. Lo hai detto esplicitamente. No, abbiamo dei vantaggi perché la loro cultura, l'attenzione. Non è così perché se voi andate e allora perché il coronavirus paesi, è arrivato prima da noi? Fermatevi, vi accorgete che ad esempio la presenza della mascherina è percepita in una forma nettamente diversa rispetto alla cultura. Ma che c'entra con la mascherina? Tu stai dicendo che si puliscono meno il culo praticamente, oppure no, che sono meno attenti? Questa è una sintesi vostra. Ma la sintesi, hai detto che non hanno l'idea. Si lavano meno le mani, sono meno italiano. Ha un'attenzione alla cura, cioè il ristorante corpo, francese com'è? Il ristorante francese com'è? Tu che frequenti i ristoranti francesi a spese nostre a Strasburgo, scusami. Sono ottimi sono. Ecco. I ristoranti francesi hanno una pulizia nettamente inferiore, hanno una cultura dell'ordine dici? Della pulizia nettamente inferiore. Ma, dai, ma chi te l'ha detto? Ma che follia è? Sono pronto a sorteggiare 10 ristoranti italiani e 10 ristoranti francesi. Li sorteggiamo, ci andiamo assieme e vi accorgerete che i bagni francesi hanno una pulizia nettamente diversa rispetto Ciocca. A quella della pulizia italiana. Posso per fargli voi non una è domanda? Così, mi scusi Ciocca, però abbia pazienza, lei la sa la differenza tra un virus e un batterio? Perché non pulirsi il culo al massimo ha un'influenza sui batteri, non sui virus. Non ti mettere a fare l'igienista adesso. Io vorrei sapere se un europarlamentare sa di cosa sta parlando. Esatto. Allora lei usa dei termini. Sa di cosa sta parlando? No. Il batterio cos'è? Il virus cos'è? Mi dà una definizione. Secondo lei, uno che non è abituato a pulirsi il culo come dice lei, scusi, sì, termine poco sì, giuridico che non mi piacerebbe sì, usare. Certo. Secondo lei sta attento a indossare la mascherina o se ne può la mascherina? È... Questo è il concetto. Lei ha detto che non si fanno il bidet. No, non, che, è che, pazzo, non è che in Francia sono più sfigati che gli italiani. Rimanda sul è una questione punto, di comportamenti, no? Rimanga, non svicoli, non svicoli, non svicoli. Perché sono più alti i contagi in Francia? E perché sono più alti? Perché sono più alti? Perché hanno un'attenzione in questo momento inferiore rispetto al comportamento degli italiani. No, tu hai parlato di bidet. Non è che sono più sfigati. Ma hai detto cosa c'è il bidet? Cosa c'entra il bidet rispetto agli altri? Ma è il comportamento che genera questo elemento. Ma è il comportamento che genera questo elemento. Cioè, sono più sozzi rispetto a noi, per questo il virus attacca di più. Tu stai dicendo questo, che hanno meno igiene rispetto a noi, questo stai dicendo? La loro cultura. La loro cultura è igiene. Ma la loro cultura. Ma la differenza tra un batterio e un virus, lei. Ma lascia perdere. A lei gliel'ho spiegato che ha usato i termini poco eleganti. Gliel'ho spiegato usando i termini che lei ha usato, per me poco eleganti e poco consoni a una radio, però lei decide di usare questi termini, siccome capisco che magari usarne altri non sarei... è comprensibile per lei e quindi ho usato gli stessi. No, però scusi Ciocca, torniamo al punto fondamentale, al di là della distinzione tra batterio e cosa, non mi interessa, la questione fondamentale è questa: tu stai dicendo che loro hanno una cultura cultura italiana è più pulita italiana, è più pulita dell'ordine e della pulizia che esiste in modo concreto nelle nostre aziende, nelle nostre attività produttive, nelle nostre attività commerciali, e gli americani tanti cittadini italiani premia sicuramente anche il fatto di essere in grado di porsi con più attenzione nei confronti di un virus. Gli americani come sono? Sporchi anche loro, gli americani? Io più sto dicendo, guardate, ma come cazzo si fa a dire una cosa del genere? È una puttanata, Ciocca. Purtroppo, devo dire la verità, scusami, Ciocca, scusami un attimo. Ciocca, è stata una merda incredibile, posso dirle? Ma è una stronzata, è una puttanata. Gli italiani non sono primi in pulizia rispetto a francesi, tedeschi, inglesi o spagnoli. È una stronzata. E il fatto che lei lo dica... Vi consiglio di girare un po' di più, di guardare un po' di più. Entrate in qualche ristorante francese, guardate la pulizia lì dentro. Ma sono degli standard europei uguali dappertutto. Ma che dice? Io entro in certi ristoranti italiani che sono dei cessi, è chiaro, dei cessi assoluti. Dei cessi. No, scusate. Comunque, mio amico Pupo, devo dire la verità. Ma perché insiste ancora? Lei ha pestato una merda enorme. Perché insiste? Io non voglio prendere i casi estremi. Sto parlando di una situazione media. Sì, ma la media situazione media italiana è superiore in pulizia. Nella pulizia. Ma è un deputato. Ed è un deputato. Lei fa l'eurodeputato. Dove cazzo li ha presi questi dati? Ma porca puttana! Non c'è nessun dato. È una sensazione di uno che vuole dire l'Italia è prima in pulizia. Lei è una puttanata. È una merda enorme. Attestare questa cosa. Ma attestare secondo quale minchia di esperienza? Ma dai, su. Io da italiano attesto che grazie al comportamento virtuoso legato a una cultura di ordine, ma perché ci rende ridicoli in una situazione perché? Sicuramente diversa da altre parti. Ma perché ci rende ridicoli in Europa? Lei ci rende ridicoli in Europa. Vabbè, questo è il dramma vero. Ci rende ridicoli in Europa. Io questa affermazione l'ho fatta non al Parlamento Europeo, ma leggeranno in tutta Europa adesso. Che c'entra? È uguale, non cambia niente. Se voi mi state chiamando, mi sembra che se mi state chiamando, ma perché è una puttanata? Ma sì, no? Ma non c'è nessun dibattito. Ma che dibattito? È una merda pestata. No, la chiamiamo proprio perché è una stronzata. La chiamiamo alla zanzara proprio perché è una stronzata. Scusa, Ciocca, però posso dirti una cosa per concludere? Quando allora, volete, vallo a dire in faccia a un europarlamentare francese, eccetera. C'è un tuo collega francese che noi siamo meno zozzi rispetto a loro. Chiamiamo Tarabella. Chiamiamo l'onorevole Tarabella. No, non c'è nessun discorso di siete miei ospiti. Com'è il discorso di siete miei ospiti? Adesso vuoi trovare una via d'uscita? Siamo più puliti, non sozzi. No. E scopriamo anche meglio. E magari scopriamo anche meglio, corpo, no? E magari scopriamo anche meglio. No, puoi aggiungere anche scopriamo anche meglio, perché quello è un altro classico, no? Puoi aggiungere anche questo se vuoi. Sicuramente posso dire che abbiamo le donne più belle al mondo. Non ho avuto l'opportunità di avere una donna di altre parti. Italians do it better. Io giro giro, io giro, guardo le donne e mi accorgo che l'Italia ha la fortuna di avere le donne più belle del mondo. Ma che cazzata è? Ma invece i negri mangiano solo le banane, non lo diciamo anche questo. I negri mangiano solo comunque, le banane. Comunque, devo dire la verità, Pupo, il mio amico Pupo mi scrive, ha ragione Sciocca, incredibile, guarda, pure lui, ha ragione Sciocca. Perché Pupo rappresenta il mondo... del buon senso, della fermi tutti, fermi tutti. Ciao, Sciocca, ciao, fermi tutti. La Zanzara. Ciao Crux, ciao Parenzo. Allora, siamo qua alla libreria Einaudi di Reggio Emilia e ci stavamo chiedendo: ma leccare o succhiare un clito grosso è come fare un pompino a una sorta di cazzo? Punto di domanda. Via il dibattito. Non so se è stato detto, ma in Giappone sono più di 20 anni che è possibile acquistare peli pubblici. Ci sono dei negozi specializzati, dentro al sacchetto ci sta, dentro al pacchettino ci sta la scheda con il nome della ragazza, l'età. Importantissimo, guarda, se non mi ricordo male potevi beccare le ragazze 16-17 anni, era legale vendere i peli pubblici. Comunque al giorno d'oggi insieme ai peli ti becchi pure lo QR code che scannerizzi, ti linka direttamente alla OnlyFans giapponese, sì, sì, dove per $10-15 in più vedi pure il video nel momento in cui se l'è tagliati. Cioè, collega, ti ripiglia di Cruciani. Vabbè, riprenditi, dai. Non è che pretendo di parlare di cose nuove. In Giappone sono più avanti rispetto a noi su tante cose, si sa, vai. A Parenzo! Altro che diet coach, io te faccio il fuck coach. Ti seguo tutto il giorno e te mando a fanculo dalla mattina fino a mezzanotte. A gratis, eh? Non voglio niente. Ciao! Ma chi è questo qualcosa? Ma è un ascoltatore che ce l'ha con te, ma non è una novità, amico mio, non è una novità. Gli ascoltatori che ce l'hanno con te non sono una novità. No. Si affollano sempre di più quelli che ce l'hanno con me, per esempio, per avere messo un culo in copertina, nella copertina di un libro. Cioè, molte persone mi attaccano dicendo che è una vergogna, che cazzo fai, ti esponi così. Esatto. Ma se uno espone gli altri, ci vuole raccontare l'intimità degli altri, ogni tanto deve raccontare la propria intimità. Ma come lo dirai a tua mamma, che passeggia per Milano? E purtroppo vede quel manifesto, cioè, cos'è questo? No, mia madre, no, ma come dirai a tua sorella, alla tua problemi. Amata, alla tua mia splendida sorella, mi ha un po' contestato, ti credo, sì, un po' contestato. E ti credo, quella splendida ragazza, guarda, un po' contestato. Ma perché non ho ancora visto la copertina premium, poi del libro dell'edizione premium. Vabbè, quello ragazzi, normale costa 19 euro, allora, con 100 euro ti compri anche quello col gratta e vinci e pui vedere anche. Ma questa è un'idea di Gottardo, cioè da tempo un'idea di Gottardo. Allora ragazzi, abbiamo qui in studio però un personaggio che voi due ignoranti non conoscete. Ma c'è il Covid, non si può avere nessuno in studio. No, una persona si può avere in studio, non rompere i coglioni con sto Covid del cazzo, non fare terrorismo con sto Covid. Una persona si può avere. Abbiamo una persona che tutti e due, voi lì, uno a Padova, l'altro a Roma, non conoscete, non sapete chi cazzo è. In realtà non lo so manco io. Malissimo ragazzi. È un, come si dice, trapper o rapper? Io non so un cazzo. Artista. Artista, bravo, un artista. Diciamo artista che a tempo italiano. A tempo perso fai il trapper, diciamo, esatto, diciamo così. Si chiama, esatto, Rosa Chemical. Rosa, ciao a tutti. Ciao a tutti. Come ti dobbiamo chiamare? Rosa? Rosa, va benissimo. Rosa. Però tu sei rose, alla latina. Sì, sei anche un po' liquido sessualmente, cioè non è che ti piacciono le classificazioni, cioè sei uomo, perché è evidente che sei un uomo, però in realtà... Cioè, in realtà non ci tieni molto all'identificazione sessuale. Cioè, secondo te, sulla carta d'identità ci dovrebbe essere maschio o femmina o va cambiata questa? Ci puoi cosa? Disegnare un cazzo sopra, secondo me. Eccolo qua. Sì. Cioè, sempre senza... fine. Sì, solido, liquido, gassoso. Cioè, non secondo importa. Te il sesso non è importante, la classificazione sessuale. No, cioè. No. Senti, ma perché c'hai le unghie pittate come Fedez? Cioè, no. Una moda che hai preso da Fedez oppure no? Queste unghie pittate di rosa? No, al massimo Federico l'ha presa da me. Ah, Federico è imparato da te. Signor Fedez. Voi conoscete Rosa Chemical? O no, lo conoscete o no? In alcun modo, ma no. Mi sembra una persona di cattivo gusto. Anche quello si chiama Rosa. Cattivo perché... gusto. Io lo trovo che sia una persona straordinaria Rosa, nella sua estetica così bizzarra. Rosa Chemical. Che tua figlia lo conoscerà, vedrai. Tua figlia lo conoscerà. Musicale. Tu, Gottardo, conosci il signor Rosa Chemical? Ma l'ho sentito un paio di volte in radio, per carità del Signore. Per carità del Signore. Questo si definisce artista come Michelangelo, Raffaello, come Palladio, come Canova, artista. artista di cosa? Di un cazzo. No, artista, adesso calma. Fra un anno non è venuto qua mio ospite, non puoi trattare così, no, un mio ospite. Però uno non può definirsi artista. Ma come no? Che cosa è? Secondo quale secondo quale criterio? Intanto della durabilità, non ti cagherà nessuno. Ma che ne sai? Ma che sei? Ma guarda che sei incredibile. A parte che tratta bene un mio ospite, è venuto qui apposta per parlare di alcune cose, per cui non rompere i coglioni con queste meteore. Preferivo un porno star, guarda. Vabbè, ma anche quello, a tempo perso faccio anche quello. Beh, questa è una cosa interessante. Metto il cazzo in giro. No, non è così. Allora, però voglio sapere, io l'ho chiamato soprattutto, stai zitto un attimo, l'ho chiamato soprattutto perché ha una grande passione per i piedi, è vero Rosa? Assolutamente. Cioè, tu nel rapporto sessuale, i piedi li trovi, come li trovi? Io li trovo fondamentali. Cioè, tu? Anche io, ma non solo nel rapporto sessuale, anche mentre leggo un libro, mentre dipingo. Cioè, me ne metto uno in bocca e sto lì. Cioè, ma quale? Quello della tua fidanzata, immagino? Sì, sì. Ma anche lo hai fatto anche con partner occasionali in genere? Oppure è successo. Cioè, tu durante un'attività di qualsiasi tipo metti il piede in bocca della tua fidanzata? Beh, è normale, sì, secondo voi, voglio capire, è normale. Ma che allora uno metta il piede in bocca? Infilati quello di Cruciani, infilati quello di Cruciani in bocca se sei un artista. No, ma che c'è? Una grande performance. Ma lo fa con le persone. Manzoni hai scattato la merda, tu ti metti un piede in bocca di Cruciani se hai le palle. Ma no, ma che c'entra, ragazzi? È una cosa diversa. Allora che ribelle sei? Ma cosa c'entra? Cose da ribelle, faccio altre. Ma per favore, come siete faticosi. Dai, io voglio fuoco le scorregge. Lui come è ribelle, stai dai. Zitto un attimo e chiudete il microfono di Padova. Chiudetemi un attimo il microfono di Padova. Voglio regalare a Rosa Chemico il mio libro, Giuseppe Cruciani nudi, ovviamente, eccolo qua, caro Rosa. Sono onoratissimo. Onoratissimo. Tra l'altro, bellissima copertina. Ma sono io, metti il libro in bocca. Vado allora. giù il microfono di Padova, questo rompicoglione di Padova. Tu sei del 98, ma qual è il modo di vivere la sessualità di uno del 98? Voglio capire, al di là della tua passione per i piedi che ci accomuna, ma tu sai che cos'è un piede? Qual è il piede perfetto secondo te? Vabbè, ne ho già parlato in diversi casi, però il piede perfetto, allora, secondo la maggioranza dei feticisti italiani è un piede piccolo, che sta bene in una mano, profumato, eccetera. Secondo te invece? Secondo me, vabbè, anch'io lo prediligo piccolo, però non profumato, deve sapere di qualcosa. Di qualcosa, cioè, di corsa. Un po' sudato. Quello di Cruciani è perfetto. Me. No, ma io lascio perdere il mio piede. A lui piacciono i piedi che delle persone, non è i piedi a caso delle persone. Da cui sono sessualmente attratto. Esatto, bravo. Cioè, non stare dietro No, ma è sessualità nel senso, io credo che ci sia... qualcosa che ti attrae, qualcosa che non ti attrae. Se ti attrae non e è non che devi... E non ti faresti Cruciani? Non te lo faresti visto che sei sessualmente liquido? Ma è un bell'uomo, per carità, però... Tu sei un po' bisex. Fatelo in diretta, Giù questo microfono da Padova, cazzo. Lo volete abbassare questo microfono da Padova o no? Da Padova? Sì, da Padova. Tu sei un po' bisex o no? Ma sono... No. Vabbè, io preferisco non esprimermi su questo. Certo, non ha dichiarazioni da fare. Non ho dichiarazioni da fare. Sei il Papa, cioè... non ho dichiarazioni. Se Rosa Chemical ti sei bisex, mi dici no. Sono il sesso italiano, questa è la risposta. Sei? Il sesso italiano. Che vuol dire sei il sesso italiano? Vuol dire sono il sesso, non è c'è tutto, esatto, non identificazione. No, ho capito, cioè tu potresti, cioè in teoria un uomo te lo potresti fare, se ti posso fare quello che voglio. Quello che vuole. Però Rosa, mettere in bocca, ecco, il piede è bello, secondo me, ha una sua geometria. Sì. Cioè il piede è bello, secondo me, è il piede regolare, cioè quello che parte dall'alluce, tu non incontri ostacoli e arrivi fino al mignolo. Quello è il piede perfetto. Poi non deve avere storture, non deve avere calli, non deve avere cipolle pronunciate, non deve avere cose strane. La tua fidanzata è qui davanti, io non so che piede ha, l'ho visto in qualche video, vorrei vederlo. Purtroppo non si può entrare in tre studio perché queste regole del cazzo, almeno in questo building, poi fate il cazzo che volete dappertutto, in questo building non c'è, altrimenti farei vedere il piede dalla fidanzata. Però la geometria del piede è fondamentale. Ci hai mai pensato a questa cosa? Sì, naturalmente. No, perché anche io all'inizio la pensavo un po' così, un po' più... la prendevo un po' più estetica come situazione. In realtà poi sono andato oltre e mi sono trovato anche davanti a piedi con alluce valgo, per dire. Sì. E mi piace anche quello, in realtà. Ma come fa a piacerti l'alluce valgo, amico mio? Vabbè, a meno che non sta proprio dall'altro lato pochettino, non mi dispiace. Un piede brutto sessualmente non ti fa mosciare, cioè ti si rizza lo stesso. Questo dipende problema. Che cosa si intende per brutto. Ma ragazzi, un piede che è leggermente storto, eccetera, non ti dà fastidio. Secondo me non è brutto. Non è brutto, cioè con una leggera inizio di cipolla così, di stortura così, non è brutto. No. E quale lo consideri brutto allora? un piede grasso, secondo piede me grasso. Sì, quello dove non vedi né ossa né questo vene. Sì, questo è il piede grasso. Secondo me quello è quello brutto. Di Gottardo, per esempio, è molto grasso. Sì, l'ho visto io. Quello di Gottardo è molto, molto grasso. Di Padova, quello del Padovano, sì, è sì, molto, sì, molto grasso. Questo brutto, posso, il suo è posso brutto. Confermare che è molto, molto grasso, brutto, inguardabile. Diciamo, vabbè, inguardabile. Non me lo metterei mai in bocca. Allora, non credo. Senti, invece, anche per esempio, i piedi di Chiara Ferragni, per stare in tema Fedez, per me sono terribili. Puoi dare un giudizio sereno? Senza compromettere la tua amicizia con Fedez? No, dai un giudizio sereno sul piede di Chiara Ferragni, che è un piede terribile, diciamo la verità. Allora, ne ho visto. Oggi stavo su Instagram, sì, e tra l'altro scorrendo le foto del cane, perché c'è il cane di Fedez che c'ha una pagina, sì, che, sì. Molto seguita, tra l'altro. Ho visto una foto dove c'era lei che lo prendeva in braccio, sì, sì, e ho visto spuntare, non so se è l'indice o sì, il medio, è il secondo, sì, il secondo, beh, dito, illice, trillice, quello è il nome, secondo, il secondo, si dice il secondo dito, sì, il secondo dito che spuntava più alto rispetto all'alluce, sì, molto più alto. Un po' too much. Però non compromettere, non ti preoccupare, dillo che non ti piace, che ti fa schifo quel piede, no, dillo. Guarda, io sono dell'idea che comunque la bellezza è veramente molto soggettiva, quindi dire per me magari sì, certo, è brutto, però magari a qualcuno piace. Beh sì, insomma sì, Fedez ha detto che lui non, i piedi non gli fanno nessuna impressione. Quindi vedi, lui magari si trova. Scusi, abbiamo collegato qui un signore che si chiama Maurizio Ruggero ed è un esponente della ultracattolico in Italia, del Sacrum Imperium di Verona. Ah, che vorrei che, come dire, ha ascoltato questa augusta conversazione riguardo ai piedi e la sessualità. Sì, caro Maurizio, sono colpito, da che cosa? Allora, questo signore è del 98, dunque molto giovane, tu sei di un'altra generazione, sì, mi piace molto questo scontro, sì, tra generazioni. Una persona che, sì, dichiara di non avere sesso, diciamo, di poter andare sia con gli uomini che con le donne, cioè di essere sesso, cioè di essere tutto, bravissimo. Secondo te che cos'è questo signore? Questo signore che si chiama Rosa Chemical, rappresenta, sì, per te il male, è malato, cosa dovrebbe fare secondo te? Intanto credo che sia un bisessuale, quindi un aspirante sodomita, evidentemente, perché almeno per metà è almeno un sodomita di mediato, diciamo, un aspirante sodomita, dunque figuriamoci, quindi. No, poi le unghie laccate, come le trovi le unghie? C'è il fatto che abbia le unghie smaltate. Una cosa orrendamente femminilizzata, cioè è la femminilizzazione del maschio, sì, che piace tanto alla rivoluzione, piace anche a voi naturalmente per involgare le persone e per diffondere un elemento pansessualista del rotomane che piace a voi, ma fa schifo la tazza delle unghie laccate in un uomo. Cioè, secondo te sulla l'uomo questione dei piedi, se posso dire una parola, non capiterà molto spesso. La questione dei piedi, ma adesso lasciamo stare il fatto di prenderli in bocca o meno, però resta il fatto, sì, che a livello maschile, sì, siamo attirati da tante cose dell'elemento femminile. Sì. Il fatto stesso che a livello femminile, se una deve sedurti, metta, che so, ma tu che ne sai? Con lo spillo, Ma tu che ne sai, Ruggero? Che ne sai che non devo andarci? Ma devo andarci io? Ma che ne sai che non ti sei mai fatto una sega da anni? Cioè, che parliamone, per favore. Intanto ringraziamo il Padre Eterno che Ruggero cerca di rispettare la legge morale, mentre voi porci fate quello che fate. Cioè, tu secondo te è un porco? Secondo te Rosa Chemical è un porco? Secondo te Rosa Chemical è un porco? Prima di salire sul podio, voi che non avete nessuna tribuna morale, state al vostro posto. Dopodiché fammi dire questa cosa. Aspetta, fermala, torno subito, fermo, che Rosa Chemical ha anche qualcosa da dirti sui tuoi comportamenti sessuali, perché ricordiamo a tutti che Maurizio Ruggero, lo ripeto per l'ennesima volta, sì, è un signore che legittimamente dice, non essendo sposato, che non si può fare sesso, dunque non si è mai masturbato, fino a prova contraria, non essendo giusta reazione di Rosa, e non essendo sposato non ha fatto sesso e non si è mai masturbato. Questo è il quadro, e lui dice di essere nel giusto, nella legge morale. Noi invece saremmo tutti dei porci. Torniamo subito. La zanzara. Mino, tu hai paura degli omosessuali, perché sotto sotto lo sai che ti piace il cazzo. La zanzara. Allora, Crucio e anche Parenzo, che secondo me è altrettanto interessato all'argomento, hai dedotto. Secondo il grosso centro studi della Zanzara e dei nostri ascoltatori, vorrei proporre un super sondaggio. Mia moglie sostiene che oltre i 50 anni, dopo i 50 anni, i rapporti sessuali completi tra partner, diciamo, si abbassano ad una media di 2 al mese, e lei sostiene forse anche meno. Secondo me è pazzesca questa cosa. Che ne dite? Ho finito di tirare la patente a Rosa, che mangia i piedi alla guida, mi vomito addosso. Oh, ma dimmi qualcosa, c'hai i piedi più famosi di Instagram. Ma cos'era questo? Era un mio carissimo amico, che lo saluto, Mambolosco, che ha ripreso una scena dove la mia ragazza, mentre guidavo, mi ha messo un piede in bocca mentre guidavo. Incredibile. Mentre guidavi, vabbè, cioè, sì, come passatempo, cioè, c'è chi fuma la sigaretta, sì, in macchina, giusto, ma sì, giusto. Uno mangia i piedi, cioè succhia i piedi della fidanzata, ma ragazzi, fuma ma i piedi. Ma se uno ha la fissazione per i piedi, ma potrà, potrà esplicitare, fa l'artista, che ne dica Gottardo, ma c'è Gottardo oppure se n'è andato perché è offeso dal fatto che ho detto giù? Mi è arrivato il servizio della cena in camera, sì. E quindi ho cenato mentre cosa voi parlavate di piedi e altre puttanate. Cosa c'è per cena? Ho mangiato delle zucchine bollite con del petto di pollo e dell'ananas, abbondante ananas. Pensate come si è ridotto. Però siccome Rosa, sai che Rosa, che io non so un titolo di una tua canzone, non dico che me ne vanto, però non so un cazzo, sì, non faccio finta di saperlo. Dimmi due titoli. Allora, te ne dico due quelli che ti piacciono di più. Due in contrapposizione. Uno, un estremo di arte contemporanea, che è polka. Sì. E un secondo invece una ballad, bohème, capito? Polka e bohème. Capito che arte, Poliedricità, Gottardo. Poliedricità. Capito Gottardo, che arte, che arte. Arte tutta da dimostrare. Senti, domande su YouTube. Domande su YouTube, per sti cazzi è gratis. È gratis, caro mio. Intanto vediamo quando pagano dei biglietti per venirti a sentire. Ma io faccio già sold out. Dove? Ne farei dove che c'è il Covid? Per forza non potranno entrare che in 20. Adesso che c'è il Covid, dove? Dove allora, cazzo fermola, lo fai? Fermola. Allora, domande sessuali a uno del 98. Tu sei attento all'orgasmo della donna con cui vai? Non riesco ad eiaculare se la mia donna non orgasma. Cioè, secondo te è prioritario l'orgasmo della donna? Sempre. In questo secondo me sei più avanti rispetto al tuo essere del 98. Beh, perché non è una cosa, cioè non è una cosa così comune ai giovani d'oggi. Cazzo, ma nel 98 si vede che ha 22 anni. Attenzione, dipende anche però in che contesto lo vogliamo mettere. Cioè, qualche volta non te ne frega niente, così te ne fotti totalmente. Allora, io adesso sono fidanzato felicemente, e quindi la mia donna. Dunque, hai cura dell'orgasmo della tua donna? Assolutamente. Esattamente come Ruggero, immagino, no? Giusto, Ruggero? Esattamente come te. Non riesco a capire, però, francamente, perché voi altri lo processiate su questa cosa dei piedi, perché gli orientali, per esempio, è noto che hanno questa ma non lo sto processando, ma chi te l'ha detto? Io non lo sto processando. Processato tu per le cose che dici. Processato tu che metteresti a rogo i gay. Ma tu fai la copertina col tuo sederone schifoso, ma no? Bellissimo il tuo libro, no? Metti il tuo nudo davanti, però coprendo pudicamente, per fortuna, vero? Almeno il pisello, no? Giustamente, prima Parenzo gli diceva: ma tu a tua figlia, non so, a tua sorella, a tua madre, queste cose gliele dici? No, perché ovviamente ti vergogni. Ma ti che non le dico? Bene, possono vedere, vanno in libreria, bene, guardano i cartelloni. Ti guardi bene dal corrompere i tuoi, come fa anche Parenzo. Sono disposto. Parenzo ti guarda bene dal corrompere i suoi. Ma che rompete i figli degli altri? Ma che bravi! Ma cosa che corrompiamo? Siete. Ma complimenti! Scusa, ma ti rendi conto, Rosa? Questo signore qua non si è mai fatto una sega in vita sua. Tu che hai. Ma vi rendete conto che voi, che siete dei maiali, è agitato. Andate a sindacare chi cerca di rispettare la legge morale. Ma legge morale posto, no? Sarebbe come se il bandito e il rapinatore giudicasse il gioielliere. Ma non ho capito, avete Rosa. Dice il rapinatore: ma come, se ho ragione io, no? Devo giudicarti io. E no, sarà il gioielliere. Scusami, che Rosa, giudicare vuoi, il vuoi dire qualcosa vero? A questo signore che non si è mai masturbato in vita sua perché non si è sposato? Ma questo signore che fa le copertine da schifo col suo deretano, che solo lui se le può prendere. A proposito, cari radioascoltatori, se volete prendervi questa compagnia, poi vi sparate, no? Vi comprate questo libro, voi vi sparate, visto che adesso stai zitto un attimo, vai, storie di rotomanie. Sì, quello è sicuro, quello è sicuro. No, esatto, praticamente abbiamo fatto la guida monaci dei vizi, no? Sì, che assolutamente, vero. Ha messo assieme, complimenti, benissimo, poi sparate. Rosa, allora dimmi che... No, io volevo chiedere, visto che mi hanno detto che non si è mai masturbato. Sì, vero, conferma. Io volevo chiedere, per esempio, in una situazione quale quella del lockdown che abbiamo subito qualche periodo fa, come sei stato a stare col cazzo in mano. Vabbè, ma questo cosa c'è? Ma è un tradizionalista. Allora, una per noia. Si fa chiamare Rosa, che è un mezzo sodomita, che usa un linguaggio di questo schifo, di questo tipo, che ci ha afflitto fino adesso col suo piede in bocca, persino quando... guida e godo. La stradale, altro che il telefonino in macchina, abbiamo il piede in bocca, è incredibile. Uno che fa la carriera di leccapiedi, perché bisogna dire che tra l'altro come se noi avessimo bisogno di leccapiedi, sodomiti, non ci mettono delle leccapiedi normali noi. Ti segnalo che anche venuto, ti segnalo che è arrivato dentro, ti segnalo che è arrivato dentro lo studio con una borsetta, con una borsetta molto femminile, borsa di difendi naturalmente, perché tagliare, ovviamente è sponsorizzato dalla testa ai piedi, però aspetta, ragazzi, devo stare dietro a questa gente qua, cioè, il parametro vostro sono il sodomita, il vizioso, l'erotomane, quello che si l'eroinomane, ma è la vita, ragazzi, ma è la vita, è la vita, quando chiudete dateci una buona notte, ma il mondo quando non chiudete, è bello perché vario, perché io sto aspettando con grande aspettazione finalmente ci diate questa grande notizia a nome anche di gran parte del popolo italiano. Quando chiudete? Non è una cosa, una bottiglia. State zitti tutti, voglio fare delle domande a uno del 98 sulla sua sessualità. Uno del 98 un po' particolare, cioè non è che tutti quelli del 98 sono così, per carità, però ci mancherebbe altro, sarebbe difficile. Allora, leccarla è fondamentale, sì o no? Ha ragione Mischill o no? La vagina? La vagina o no? Fa parte di tutto, quindi sì, certo. Però non mi sembri entusiasta di questa cosa. Sei entusiasta. Cioè lui ha detto, se non la lecchi è giusto che la tua fidanzata ti lasci. Questo sì. Però aspetta, no, secondo me le domande sessuali sono sempre al contrario. Non è giusto, tipo, perché no? Non è perché la domanda, è perché no? Sì, no, ma perché no? Capito? D'accordo, voglio dire, se è una tua fissazione, cioè se alcuni linguisti ti applicano. Non è la mia, sì, mi applico, ma non è la mia fissazione. Non è la tua fissazione. No. Invece uno del 98 con l'anale, come si comporta con l'anale? Fino a qualche tempo fa ero abbastanza traumatizzato da alcuni episodi che mi sono successi, però adesso dire che mi trovo abbastanza a mio agio. Cioè lo fai con la tua fidanzata, sì, sono in una zona di comfort. Cioè vi siete sverginati a vicenda? A vicenda. No, tu l'hai già fatto prima, immagino, no? L'avevi fatto prima che con la tua fidanzata, l'anale? Sì, l'ho fatto prima, con traumi. Lei no? No, anche lei. Anche lei? Sì. Mazza, ma quanti anni ha? Ci divertiamo, 29. 20, vabbè, sì, 20, è più grande, è 7 anni più, te la sei presa? 7 anni più grande. 7 anni più grande? Sì. Mamma mia, una cosa incredibile. Cioè, capito come va avanti la società, Ruggero? La società va avanti in questo modo. Io la società va avanti così. Io dei Cavalieri di Vittorio Veneto. Vedo che quelli nuovi Cavalieri di Vittorio Veneto fanno queste porcherie. Ecco perché. Ma non fanno le porcherie, vivono! Una volta i Cavalieri di Vittorio Veneto partivano per la guerra, vabbè, seppure la parte sbagliata, perché era meglio vincesse l'Austria. Ma questo è un altro discorso. Tu hai mai visto un porno? Scusa, Ruggero, hai mai visto un porno o no? Ma non si devono vedere queste robe qua, perché altrimenti tu vedi porno, vedi porno tu. Sono ossessionato dei porno. Addirittura, e che porno ti piacciono di più? Tutti, bisex, pure bisex. Stupri. No, ma stupri non si dice, stupri finti, stupri. Rape, diciamo, si finti. Chiama la categoria rape. Ah, la categoria rape, certo. Diciamo, la categoria rape. No, ci mancherebbe che quelli che fingono, no, quelli ovvio, che fingono. Poi tu sono che film, ti piace rape, film. Che però a me non piace rape, oppure Mi piace molto il pissing. Pissing pure. Sì. Ti eccidi di molto. Insieme alla tua fidanzata ti guardate? Sì. Sì, capito. Sì, capito, sì. Ruggero, com'è? Cioè, capito, Cruciani, se per la gente mi porti. Ma Mirking, attenzione. Stupri. No, e poi vi lamentate se io cito il caso famoso di Serenelli, che fu l'omicida di Santa Maria Goretti. Il quale ma che aveva c'entra? Ma questa è data dell'omicida, me. Porno, tappezzata di porno. Senti, ma porno, cosa vuoi? Mi ha dato dell'omicida. Tu, Cruciani, patrocini attraverso il tuo alto patrocinio sul tuo libro con le senza mutande, no? e che poi vorreste far passare anche gli spettatori. Senti, ma la famiglia è tra uomo o donna, oppure la famiglia potrebbe essere qualsiasi cosa, secondo te? Basta che ci sia amore. Basta che ci sia amore. Sì. Cioè, l'uomo anche con anche tre persone secondo te potrebbero fare basta una famiglia. Basta che ci sia amore. Tre persone potrebbero farla. Ruggero, ma è straordinario, tre persone che si amano che fanno una famiglia, ma non lo trovi straordinario? Certo, mettiamo anche la bestia, mettiamo anche l'albero, perché ma la bestia? Non c'è nessun problema. È uno scontro che non può avere mai una soluzione. Salvini, quanto ti fa schifo da 1 a 100? Non seguo la politica, non te ne frega un cazzo. Rosa Chemical, applausi. Italia! Italiani, no, non è finita ancora, aspetta. Borse in diretta. Sempre con segno più Wall Street, Dow Jones più 0,36%, S&P 500 più 0,71%, bene anche l'Europa. Oggi la capolista, la capofila, Francoforte, DAX, Dreisig più 0,88%, Parigi, CAC 40 più 0,61%, Londra, London, FTSE più 0,53%, bene anche Milano, FTSE All Share più 0,7%, FTSE MIB più 0,76%, un FTSE MIB dominato da questi titoli: Pirelli più 4,29%, Mediobanca più 3,93%, Saipem più 3,25%, Tenaris bene al pari di Finecobank e Buzzi Unicem che hanno guadagnato tra il 2 e il 3%, male invece di Asolin meno 2,35%, Moncler meno 1,85%, Ferrari meno 1,40%, più anche Inuit Atlantia. Ed è nel spread BTP Bund, parliamo di spread di Bund decennale, ovviamente sempre a livelli bassi, 127,6, mentre sul fronte cambi euro a 1,1756 sul dollaro. È tutto. La Zanzara. Oh Crux, ma l'altra volta parlavi di bull e cuckold, ma per intraprendere la carriera da bull, perché non si trova niente sull'internet, avresti qualche consiglio da darci? Perché mi potrebbe interessare. Crucio, c'è molta gente che dopo aver scopato quello che mi ho appena finito di fare io, la mia amorosa, gente dopo aver scopato ha bisogno della sigaretta oppure di bersi una birra. Io ho solo bisogno di riprendere il mio podcast. Sì, sono malato, confermo. Oh, ottimo, il Gottardone. Oh. Avanti tutta. Mamma mia, che serata ragazzi, che serata. Alessandro da Venezia, avanti tutta, dai, avanti tutta. Non ho messo ancora in audio lo scontro epocale di ieri sera, parlando di cose che non riguardano il sesso ovviamente, ma cose che riguardano il Covid. Lo scontro epocale di ieri tra Porro e Galli. Mamma mia. Che aggressione. Io la chiamerei un'aggressione. Un'aggressione. Ma che cazzo dici di un'aggressione? Porro al povero Galli, al professor Galli, merita rispetto, un grande luminare. Buonasera. Sulla squadra degli Tottoni in Europa, perché lui avrà detto una stronzata, il Covid non c'entra niente, però che siano tutti è la verità. Ma ragazzi, ma non diciamo stronzate, guardi, ho abitato in Francia tanti anni, non sono, ma io, che vuol dire sono più zozzoni di noi? È una stronzata colossale, è vero, è una puttanata colossale. Ha dato delle regole della cazzo, sono europee, non è vero un cazzo. La lavano i bicchieri nel lavandino e te li ridanno. Ma non diciamo puttanate, dai. Ma sono stronzate di generalizzazione ridicole, dai, su. Che ti sto dicendo. Ma che vuol dire, lo so, ognuno c'ha la sua esperienza, ma non si può dire che sono in generale. Ma non diciamo puttanate. Sono così, tu ti troveresti bene lì, perché le donne puttano molto. Sì, non credo che puzzino più rispetto all'Italia. Guarda, le donne non puzzano più rispetto. Molto meno di... Ma, si quale... molto ma meno perché di si voi. Dovrebbero lavare meno di noi? Ma è una cosa perché assurda. Perché per loro cultura è così. Sono persone da un certo punto di vista molto più semplici. Ma chi di noi. Te l'ha detto? Comunque, guarda, voglio seguire la provocazione / cazzata di Ciocca nei prossimi giorni. Magari c'è qualche studio che hanno fatto sulla pulizia in Europa. Sicuramente, posto che questi studi guarda, siano veri. Ma che ti vai a guardare il caso dei cetrioli killer del 2011. Dei cetrioli killer pure ma cetrioli killer adesso c'è stata un'epidemia di cetrioli killer nel 2011 in Germania, perché... Ma sai quante cose abbiamo avuto noi allora in Italia? Che ma, vuol dire? Ma c'era l'escherichia coli. Abbiamo avuto il colera. Abbiamo avuto il colera, giustamente, dice Gottardo. Cioè che non diceva una giusta da una ventina di minuti. No, ecco, colera ha ragione, ma che le norme igieniche nell'alimentare, eccetera, in Germania, nell'Europa... Ma non è vero, ma sono tutte generalizzazioni. Vabbè. È vero, ciao Alessandro. Comunque il dibattito c'è. Ciao. Io ero ancora con Massimo da Ferrara che mi stava raccontando la sua esperienza di coppia scambista. Però io, siccome non credo a queste telefonate on the spot, queste telefonate al volo, Massimo, tu mi confermi, tu e tua moglie siete una coppia scambista? Sì, lo siamo da circa 30 anni. Con la mia precedente compagna e con la mia attuale compagna. Ma avete figli anche? Lei ha figli? Sì, ho due figli, uno in Germania e uno in Italia. Lo sanno i suoi figli di questa sua attività? Ma qual è il problema? Non ho capito. Chiedo. Non lo sanno. Quindi il fatto che non lo sappiano vuol dire che non è un'attività però normale. Massimo, diciamo. Però Massimo, io no, voglio... No, perché li lascio liberi di giudicare quando saranno in grado di capire le loro funzioni sessuali, come io le ho capite troppo tardi, diciamo. Però Massimo, io siccome è un racconto molto interessante, che mi riguarda anche personalmente, perché ne ho raccontato, nel senso che ne ho raccontato... nel famoso libro di recente pubblicazione, caro Davide, come si intitola quel libro? Credo nudi. Però sai che citarlo troppo, a un certo punto fa venire, provoca l'effetto opposto. Sì, esatto. Massimo, ti chiamo domani, se così mi racconti tutto. Ciao. Ma abbiamo con noi, ragazzi, una signora che servirebbe a Parenzo. Oh, mamma mia, servirebbe a Parenzo. Servirebbe a Parenzo. Servirebbe a Parenzo. Una dominatrice, quello sicuramente. Una dominatrice, anzi una mistress. Si chiama Marika Bentley. Buonasera, signora Bentley. Buonasera. Io di Bentley conosco solo la macchina, la Bentley. No, è un vero peccato. È peccato che tu non conosca questa signora che è specializzata nella dominazione. Cosa possiamo dire esattamente? Qual è la tua specializzazione, cara Marika? Io sono una dominatrice, quindi esperta in tutto ciò che riguarda il mondo del BDSM. Ma tu offri dei pacchetti? Perché cos'è, una Valtour? Che roba è? Beh, per i fedeli sì, offro anche dei pacchetti. Tipo, quali sarebbero i pacchetti, diciamo, più venduti? Cioè, i pacchetti fedeltà di dominazione, chiaramente. Sì. Quindi do la possibilità ai fedeli di farsi gestire totalmente nell'arco della loro vita. E la gestione di uno slave cosa comporta, per esempio? Può comportare diverse cose, naturalmente, ma il pacchetto, diciamo, più gettonato qual è? Ma allora, io sono molto conosciuta per quanto riguarda l'alimentazione, mi piace nutrirli i miei slave. Addirittura, quanto costa una sessione di alimentazione? Diciamo, ma perché uno si dovrebbe fare una sessione? Allora, sicuramente l'omaggio minimo per poter venire al mio cospetto è di banalissimi 500 euro. Si parte da 500 euro. Ma non ho capito, scusa, uno dà 500 euro a questa smandrappata per fare che cosa? No, che smandrappata? Ma stai parlando con una delle mistress più conosciute in Italia. Capito, per fare cosa? Adesso 500 euro non li do. Seguire la dieta. Aspetta, io 500 euro per iniziare, chiaramente. Allora, aspettate, ragazzi, prima fate descrivere, poi dite le vostre cose, esprimete le vostre opinioni. No, ma era solo per capire il pacchetto. Il pacchetto alimentazione, chiamiamolo così, della slave, cosa comporta? Andiamo al sodo, perché non è l'alimentazione tradizionale, diciamo. No, assolutamente. Che sono prodotti fatti in casa, o per meglio dire, direttamente dalla sottoscritta. Cioè, e altra roba, diciamo, che è roba che viene dal culo. Cioè, offro dell'ottima cioccolata. Addirittura? Sì. Oh, signore. Forse non ho capito. Infatti io sono la fondatrice della Bentrella. Che cos'è la Bentrella, scusa? La Bentrella è come fosse la Nutella. Semplicemente che è proprio dal creata. Tu mi stai dicendo che fai dei barattoli di tua produzione che offri ai tuoi schiavi? Mamma assolutamente mia. Che vendo i miei schiavi, certo. Ma quante persone ci sono che accettano questa roba qua? Fammi un numero di persone che accettano. In realtà io ho deciso di aprire questa industria proprio perché mi è stata richiesta svariate volte, perché a volte vengono direttamente da me per poterla come fanno a saperlo loro? Quelli che vengono da te, d'accordo, ma quegli altri che non vengono da te, che gli fai un video? Ormai sono assolutamente, insieme alla Bentlella loro riceveranno il video in cui il video proprio della produzione, personalizzato. Cioè, sei la regina dello scat, praticamente. Esatto. Praticamente. Senti, è come Piero Manzoni, praticamente. Sì. Ma Piero Manzoni di questo secolo. Tu, praticamente, anche lui in scatolava, sì, esatto, solo che poi, ma come fai a essere sicura che poi quelle persone ingeriscono? Ecco, utilizziamo termini. Loro amano ringraziarmi inviandomi a loro volta dei video in cui mi mostrano il consumo, perché c'è chi la utilizza per fare colazione al mattino, spalmandola ad esempio sulle fette biscottate, chi come David, dolce. Questa è l'Italia, mi dispiace per te, no, ma questa non è l'Italia, questa è una matta smandrappata, ma più matti sono quelli che pagano questa per mangiare i suoi escrementi. C'è il delirio di questa storia. Ma io ho un'alimentazione sanissima, quindi... ma il problema infatti non è lei, cioè il problema è anche lei. Per lei, chi vota, per esempio, signora, ecco, Marica, tra l'altro, tra non l'altro. Ho capito per quale partito vota, cioè per cui lei è più di destra, io più voto di sinistra. Per me. Sì, d'accordo, ma in generale lei è più di sinistra. No, più no, di... io sono una dittatrice, io voto per me. Però Parenzo, secondo Parenzo, le persone che ricevono queste cose, questi regali, diciamo, dalla signora Marica, secondo Parenzo sono tutti sovranisti. Non io, minimo. No, io ho dei dubbi su questo, però, perché il sovranismo... No, è vero che lei fa dei prodotti homemade, chilometro, cioè prodotti, zero, chilometro, sì, prodotti, sì, in Italia, dunque ci sta, no, come cosa, ci sta. Lei vende anche il pissing? Vende anche la pipì? Assolutamente, certo. Certo, farò un video a breve, mi è stato richiesto, in cui faccio vedere tutti i miei slave che si occupano appunto di imbottigliare tutto. Sì, però quanto. Io voglio capire una cosa, addirittura lei ha degli slave che pagano per imbottigliare? Vabbè, io ho degli slave che pagano anche già solo per venire a fare le pulizie, questo è ovvio. Cioè pagano, Susi, quanto guadagna lei al mese per avere tutti questi slave? Così, tanto per avere un'idea. Cioè... Vabbè, non si contano, diciamo un po' di zeri. Un po' di zeri, naturalmente. Di zeri. Senta, l'altro trend nel campo della mistress, della sottomissione, qual è, per esempio? Cioè, che ne so, è un quadro agghiacciante. Cioè, c'è anche essere slave virtualmente? Si può essere... Ah, beh, sì, assolutamente. Cioè, allora, io amo che i miei slave siano miei a tutti gli effetti, quindi non solo personalmente ma anche virtualmente, perché io gradisco gestirli in tutto e per tutto, visto che ho molti slave sparsi sia in Italia che all'estero. Chiaramente il rapporto virtuale è fondamentale. E cosa fanno virtualmente questi slave? Cioè, io ho l'assoluto controllo, quindi facciamo videochiamate, messaggi. E questi godono diciamo, a farsi comandare virtualmente. Certo, ma tu ti rendi conto che uno paga sta rompi coglioni, sì, per avere le telefonate di sta rompi coglioni che poi ti manda pure il piscio a casa? Cioè, voglio dire, è un quadro agghiacciante. Scusa, si fanno insultare? Ma per loro non sono insulti, sono premi, perché io sto dedicando loro delle attenzioni, quindi... Ma sono anche sposati, fidanzati, si devono nascondere in casa? Allora, la maggior parte sì, sono persone affermate. E come fanno? In tutti i settori, anche a livello personale, quindi sposati, con figli e tutto, però le hanno provate tutte, quindi amano anche questo. E come fanno? Stanno dentro casa, tu li chiami? E questi... Allora, ho notato che le persone sposate amano portare questa cosa un po' lontano, insomma, della moglie, per non compromettere la situazione familiare. Invece ci sono delle persone fidanzate che si divertono quando le fidanzate sono in casa. E che fanno? Ah beh, a me, io adoro insultarli ancora di più in quel caso. E che fatto? Si nascondono? Ricordandogli che sicuramente saranno dei grandissimi cornuti. Sì, ma gli insulti così e loro non si fanno sentire, non si fanno vedere, scappano in casa, si nascondono, che fanno? Sì, dipende, io li metto in castigo, dipende da cosa io voglio in quella giornata. Ad esempio li tengo in castigo con la faccia nell'immondizia magari per 8 minuti, oppure li faccio lavare con la lingua il cesso, dipende. E loro godono come pazzi, cioè si masturbano oppure no? Oppure una cosa molto importante, io ho il controllo assoluto anche di quello, quindi i miei schiavi più fedeli vivono in castità, sì. Ho io chiaramente le chiavi della cintura, sì. E sono io a gestirli in questo senso, decido io quando possono e quando cintura? No. Scusi, lei ha anche sverginato un po' di persone, oppure che ne so? Io assolutamente sì, adesso ho perso veramente il conto di quanti, sì, assolutamente. Lorenzo, fai un pensierino però, faccio un pensierino. Se a un certo punto pensi... Ho visto un bel culetto, io. Sì, quale? Quale? Quello mio, di Cruciani. D'accordo. Secondo me non è vergine, cioè, quel però, culo, però scusi, d'accordo, va benissimo il culetto, però io adesso non è che l'ho messo lì perché ho delle ambizioni di quel tipo. Beh, là. Peccato però, bisogna sempre provare qualcosa di nuovo, ammesso che sia qualcosa di nuovo. Cioè, perché tu dalla forma del mio sedere che hai visto, eccetera, pensi che non sia qualcosa di nuovo? Secondo me potrebbe già essere stato ispezionato, però non troppo. Quindi potrebbe ancora essere una cosa interessante per me. Questa è una notizia. Cioè, non troppo, nel senso, non da falli, bensì da mani, da dita, per esempio. Quello sì, quello sì. O se falli abbastanza piccoli, però chiaramente dovrei visionarlo meglio. C'è novità qui. Cioè, dovresti ispezionarlo. Guarda, te lo potrei fare ispezionare semplicemente per chiarire questo punto. E vedrai che in realtà è integro, però è vero. Va bene, che, potremmo farlo. Però è vero che è stato ispezionato, sì, però in altri modi, non in modi molto intrusivi. Ti ringrazio. Esatto, quello che dicevo. Un'altra sessione, a presto, amica mia. Carica Marica. Cara Marica, ti saluto, ti abbraccio. Bene. Ciao. Parenzo è pronto, non ti preoccupare, te lo porto troppo bene anche lui, sì, ma facciamo cambiare idea. Ma italiani! Vada quel paese. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.